Graziella 15, primo settembre, Ore ore 16:20. 16:20. Stavamo parlando del fatto che sei entrata nella direzione nazionale dell'ARCI e che poi, dopo che è rientrata, ti telefona questa funzionaria dell'ARCI nazionale, Andreina. Sì, mi telefona e appunto mi dice così, no, qua, perché sai, sto preparando gli elenchi e fa, volevo sapere tu di che componente sei. Io avevo presente, come dicevo prima, io avevo una doppia delega quando sono andata là, una dell'ARCI di Verona e una dell'ARCI Gay nazionale. Quindi dico, ma non lo so, io credo di essere stata eletta come componente dell'ARCI Gay. Questa si insusta, fa, no, ma cosa dici? No, voglio sapere che componente sei. E dico, ma è quello, cioè, scusa, cosa intende? Ma insomma, sei del PC o del PSI? Io rimango, cioè proprio, io dico, no, scusa, no, non sono né dell'uno né dell'altro, perché è obbligatorio essere iscritti a uno dei due. Ma io l'ho detto sinceramente, questa deve aver capito che forse il mondo stava cambiando. E quindi ha fatto, no, diciamo così per dire, niente, via, via, va bene così. Cioè, io a quel punto mi confronto con Lucio, con gli altri, con l'Arce, e dico, cioè, ma cosa dicono? Guarda qua che allora sono ancora qui. Io lo trovavo scandaloso sta roba, cioè la trovavo proprio, cioè ditelo, che poi è vero, dovevo anche immaginarmelo che si sapeva che, ma in maniera così, proprio così sfacciata, io la trovavo una cosa proprio, era pre-92, cioè Mani Pulite era di là da venire, ma erano quelle cose lì, a me fece proprio, mi fece onco. E insomma ero un po' incazzata io per questa roba. Viene l'ora di andare alla prima riunione, vengo convocata, non mi ricordo se telefonano, scrivono, arrivava all'ARCI la convocazione ufficiale, tu sai queste cose per me molto, proprio mi terrorizzavo, è come se avessi la convocazione dei quartieri generali. Quindi vengo convocata, sento subito Grillini, c'è questa cosa, dico, magari va anche lui. Ai tempi il treno da Bologna, lui la mattina poteva pigliare un treno alle 6, arrivava a Roma alle 10. Da Verona non c'era un treno che arrivasse, quindi io dovevo andare la sera prima. Quindi lui dice, no, guarda, tu vai la sera prima, cioè se mai vai in albergo ti do io l'indirizzo. Cioè, io figurati, da sola, in un albergo, io non l'ho mai fatta sta roba, di andare così, eccetera. Io vedevo una roba fuori di misura per me medesima, tanto chiedi il giorno di ferie, eccetera. Mi ricordo che arrivai a Roma, cercai sto cazzo di albergo, non ero neanche tanto in grado di prendere un taxi e fra me e me pensavo, ma io se devo fare sta roba, mi devo far passare queste paure, perché o ce la faccio a fare sta roba oppure torno a casa mia e la mia avventura finisce qua. Insomma, riuscii in qualche modo ad andarci. Però mi costò tantissima fatica, ero distrutta la mattina dopo. Vado la mattina dopo, mi presento, ma io avevo questa fisima che proprio a me mi stava qua, cioè io la dovevo dire, a me mi pareva una cosa scandalosa questa. Fatto sta che vado e lì avevano già tutti, era la direzione nazionale che doveva eleggere la segreteria nazionale, il nuovo segretario nazionale che non era più Serri, ma fu quando divenne Rasimelli e no, presidente nazionale dell'ARCI, segretario nazionale, divenne Guidi, quello che poi divenne il ministro della famiglia e Sì, poi divenne di Forza nel primo Italia. governo Berlusconi. Esatto, che lui era proprio, a me proprio Era un non piacque, socialista. non piacque, cioè capisco che era, mi ricordo che malattia Era avesse, portatore era d'handicap. Sì, era. portatore d'handicap, tutto tremolante, faceva fatica a parlare. Però era un imbonitore, cioè non è che perché uno è portatore d'handicap allora è santo, ma erano tutti e difatti se lo pigliarono. E lui poi divenne anche, pigliò il posto che poi divenne della Tognollo, quando lui, o meglio ce l'aveva, lui era coordinatore per l'handicap della CGIL all'epoca e fu messo a fare il segretario nazionale dell'ARCI. Già a me questa roba non mi piacque come avevano fatto, in più c'avevo sta cosa della componente, quindi diceva di che componente è Guidi, che componente è Guidi, Guidi è il PSI, che componente è Rosimelli, che componente è Rosimelli, insomma a quel punto io pensavo, ora mi scrivo a parlare, io gliene dico quattro, e quindi mi mi iscrissi a parlare, vado, ma siccome era un giorno che ero tesa dal giorno prima, dover partire, dover andare in albergo, vedere questo, rasi i guidi e tutto stambaradà, gli feci una piazzata dicendo che racconto della telefonata. C'era anche l'Andrino Albano lì che faceva finta di un poraccio, quindi vabbè. E vuol dire, mi ha telefonato l'Andrina Albano e io la trovo scandalosa, io non vengo proprio da questa storia, feci tutta una parte. Allora, tutti mi dettero ragione, cioè, da quel Certo. momento lì. E cosa successe? Che entrai in segreteria nazionale dell'Arci, dove sei? Perché così fa la gente, capito? Una va lì, rompi i coglioni, allora. E quindi io mi ritrovai, sì, che mi ero sfogata, mi ero incazzata e mi trovai più connivente che mai a quel punto. Certo, Perché d'accordo. così io ero l'unica che non era di niente nella segreteria nazionale dell'ARCI, perché tutti intervennero dicendo sì, il nuovo che avanza, ha ragione lei, eccetera. Quindi è importante che il nuovo che avanza, perché queste cose sono cose che abbiamo ereditate, non ci devono più appartenere, il percorso deve essere questo. E quindi figurati, a Grillini fu felice, avevo fatto la mia bella figurina, tra l'altro senza mai entrare in competizione con lui, perché era come se l'Arcigay fosse pulito. Chiaro, Ma chiaro. l'Arcigay era come loro, cioè ero io che ero arrivata dal nulla per sbaglio, da Verona, da questo, e mi telefonava, vedrai che Grillini avrà saputo, mica gli avrà chiamato per chiedere, perché alla fine c'era solo io, lui dell'Arcigay, in segreteria nazionale Nella dell'Arci. direzione. Della direzione, perché poi in segreteria entrai io e non lui. Fu da lì che dopo, anni dopo, gli venne l'idea di mandarmi a Roma a fare l'Arcigay di Roma, perché comunque io poi in quegli anni sono sempre rimasta nella segreteria nazionale dell'Arci, che poi è rimasta non contando niente, perché io non ero a Roma, cioè cosa cazzo vuoi contare? Cioè, niente, quantomeno. Cioè, alla fine mi ritrovai a spendere quella cosa in un altro contesto che era quello dell'Arcigay. Non era stata mia volontà, ma questo fece questo effetto, per cui alla fine più nessuno contestò per un po' la mia presenza dentro la Siamo segreteria. sempre nell'89. Sempre 89, questo avvenne a inizio 89. Quindi, da un lato questo elemento che politicamente, in quello che era il contesto, che dopo c'era il PC nell'Arci, non è che l'Arci fosse una cosa dove il PC non prestava attenzione, l'Arci spesso a quell'epoca cresceva i suoi proprio, cioè il PC cresceva i suoi dentro l'Arci, quindi era un po' una scuola per il PC, quella dell'Arci, in particolare per chi poi pensava di spendere magari sul piano culturale e così via. Quindi il PC prestava attenzione a questo e lì partì un po' questa cosa. Questa andò così legittimandomi, cominciarono a chiamarmi anche loro, perché alla fine io ero presentabile, cioè al momento in cui loro dovevano svecchiarsi, ero dell'Arcigay, ero una donna, ero giovane, la chiacchiera ce l'avevo, non chiedevo niente soprattutto, non ho mai chiesto un favore. Soprattutto non volevo essere assunta dall'Arci, volevo mantenere il mio lavoro, io questo ce l'ho sempre avuto chiaro, con Grillini che cercava sempre di spingermi, no, ma magari distacco sindacale, dicevo, no, io non voglio distacchi, niente, cioè non capivo che sarei finita troppo dentro quel gioco. Era quello che dicevo prima, ero democristiana in questo, no? Cioè ero contraddittoria, quindi da un lato io ero consapevole che era una strategia, cioè il mio far politica nell'Arcigay a livello nazionale è stato tutto un fatto di strategia. Alla fine feci due conti, capii che in quel modo potevo andare nei posti. Tanto io ogni volta dovunque andavo dicevo sì, perché io sono lesbica. Ma te appunto che cosa facevi? Cioè, in che cosa è consistito questo ruolo? Fino al 94 abbiamo detto sei stata. Però manco un pezzo, cioè il fatto che diventi segretaria Sì, nazionale. questo è quello che succede nell'89. Questi due elementi, epoca, questa cosa che vado a finire un po' per sbaglio, un po' così a questo congresso, mi ricordo, questa non l'ho raccontata perché la prima volta in assoluto in cui andai in televisione, fortunatamente era registrato, fu durante il congresso di Perugia dell'Arci, dove, vista tutta questa cosa che raccontavo prima della conferenza stampa con Serri, della lettera da rispedire a Donna Cattin sull'AIDS, eccetera, c'era Rai 3 dell'Umbria, che che devi intervistare qualcuno su questo. E quindi intervista me, perché dell'Arci Gay c'ero andato solo io alla conferenza stampa. Quindi devono farmi questa intervista per il notiziario. Mi ricordo, io non avevo mai parlato in televisione. E quindi si mettono lì con la telecamera. Mi ricordo che mi misero, dietro c'avevo un manifesto, che secondo me avevamo già fatto come Arci Gay il manifesto, quello fate l'amore, non fate la guerra, dell'Arci Gay, quei due militari che si baciano, con un manifesto che è durato molto nel tempo dell'Arci Gay. Questi manifesti dell'Arci Gay di dietro mi fanno una domanda e io mi ricordo di aver visto nero. A me non mi era mai capitato, cioè non sapevo più dove ero. Non ho proprio. Vedi, nero, non vedevo neanche più la persona che mi aveva interrogata di fronte a me, e nulla, ancora un po' mi metto a piangere. Questi si sono resi conto, quindi hanno detto: no, dai, ma tanto è registrato, rifacciamo. Allora si rifà, mi rimettono lì. Io a quel punto ho detto: no, dai, ora stavolta mi concentro, faccio tutto per bene, comincio a rispondere cosa succede. Il manifesto che avevo di dietro, No, poi mi casco in testa. La mamma mia. terza volta è andata bene, ecco, quella fu la mia prima esperienza in televisione. Io pensai: dopo questo non mi fa più paura niente, proprio non c'era verso di finirla. E poi era due parole, cioè non è che fosse chissà che intervista di Servizio televisione. di TGR regionale dura 2 minuti. Esatto, e soprattutto poi chi mi avrà visto, io non lo so dopo, ma alla fine venne una cosa che riuscirono a portare in sede Rai, perché mica trasmettevo, cioè mi avrà portato la cassettina al terzo tentativo però. Vabbè, Segreteria nazionale e Arci Gay, che succede? Come ci si allora, arriva? mentre avviene questa cosa che vado a finire nella segreteria nazionale dell'Arci, ovviamente devo andare anche in segreteria nazionale dell'Arci Gay, dove era il 4-5, sennò che figura ci fanno. E quindi arrivo non più in direzione nazionale dell'Arci Gay, alla segreteria nazionale dell'Arci Gay. Prima riunione della segreteria nazionale dell'Arci Gay, all'epoca in segreteria nazionale dell'Arci Gay c'era anche il Mario Mieli, che non era un circolo Arci Gay, ma era nato da poco l'Arci Gay ed era, non so con che, era collaterale, era tanto Grillini voleva tenere dentro tutto, e quindi c'era anche il Mario Mieli. Chi veniva in segreteria nazionale dell'Arci Gay per il Mario Mieli? Vanni Piccolo. Vado, prima riunione dove vado io, c'è Vanni Piccolo che si siede accanto a me e fa: oh, ma che bello, che bello, finalmente c'è un'altra donna. Io dico: ma no, perché c'è un'altra donna? Certo, io mi incazzai. Qua cominciamo bene. Qua io sono una donna, te non sei una donna, quindi chiariamo subito le idee. Poi te sarai quello che vuoi, ma io qua sono venuta a fare la lesbica. Qua c'è una lesbica, sono io, e tu non sei niente rispetto a questo. Per almeno questo mi vuol venire a mettere bocca, nell'arci di donna, eccetera. E quindi Vanni Piccolo credo che allora mi abbia odiato da quel momento, perché proprio lo trattai da pellaio. Cioè, ora ti pare di venirmi a dire, cioè in un contesto di un'associazione che cerca di diventare mista, te vieni lì, sei più donna di me? Ma col cazzo, sei solo una checca, sei, no? Una donna, che te devo dire? E quindi Vanni Piccolo controllato così. A quel punto Grillini decide che deve investire. Grillini era molto in crisi in quel momento, perché c'era da un lato il Mieli, che al suo interno aveva una grossa frattura, perché mandavano in giro Vanni Piccolo, che era proprio il tipo d'Arci Gay, tra l'altro, oltre a essere un po' una procia persa, ma era il tipo d'Arci Gay, poi entrò all'Azzone, poi divenne difatti consigliere di Rutelli, era uno d'Arci Preside Gay, a scuola. preside, quindi spendibile, eccetera. Però in realtà il Mario Mieli era il vecchio Narciso. E c'era ancora Marco Sanna. Marco Sanna, figurati, vedeva Grillini come il fumo negli occhi. E Chiaro. quando Grillini cominciò a Come presentarsi con. Andreotti, più o meno l'avrà letto uguale. Eh? Forse Andreotti, Marco Sanna, il Narciso era il collettivo fondato da Quello da Porpora, cui viene giusto? Marco Porpora, Sanna a sì. Roma a fine anni 70. Quindi di quel movimento frocio rivoluzionario, Certo. eccetera. E Mieli, ovviamente, dentro si stavano E un che po'. cambia, il collettivo Narciso cambiò nome in Mario Mieli quando Mario Mieli si ammazzò nel 83. E quindi mi ritrovo un po' in questo contesto dove Grillini, a parte questa posizione del Mieli, che era contro l'Arci Gay, lo chiamavano Grillinescu, e ritenevano Grillini uno che era anche vero, cioè uno che voleva qua il dittatore dell'Arci Gay, che Uno voleva. voleva fare i suoi interessi politici. Sì, alla fine voleva gestire tutto, eccetera, ma non era solo loro, anche al Cassero c'erano le battaglie interne al Cassero, quindi. chi voleva il controllo del Cassero, Grillini cercava sempre lì, però poi alla fine il Cassero aveva i finanziamenti, quindi doveva tenerseli buoni. Anche, cioè, aveva parecchi problemi di consenso. Lui era stato eletto 3 anni prima e quindi doveva ricandidarsi. Il segretario nazionale dell'Arcigay all'epoca era Ivan Teobaldelli. Ivan Teobaldelli era il direttore di Babilonia, che però, secondo me, detto Baldelli era uno a cui gliene fregava un cazzo, era di Era un Milano. intellettuale, Sì, era uno di Milano, lo faceva con spirito di servizio, però era quello che era un po' un riferimento, forse perché era il medio pezzo e meno stronzo degli altri, ai vari Utter, Silvestri, Dall'Orto, i milanesi, che era quella gente lì, era il peggio del peggio i milanesi. E quindi quelli erano quelli che sostenevano Grillini, che fosse stato a guardare loro, c'era tutta più Grillini e tutti quanti. Poi c'era tutta la massa invece dei circoli sparsi per l'Italia che non avevano tanto idea e alla fine non erano neanche in grado, non avevano neanche gli strumenti per valutare. Certo, c'era un po' di malcontento rispetto a Grillini, ma chi era lontano dal centro, chi era nella periferia. Alla fine Grillini ci piaceva perché era uno che sapeva andare in televisione, riusciva a sgomitare e in fin dei conti per l'Arcigay era tutta visibilità e non una visibilità di cui dover essere imbarazzati. Quindi era un po' in questa situazione. Il discorso che facevo prima, cioè di dover anche uscire dall'imbuto dell'AIDS, a maggior ragione Grillini rispetto a questo è sempre stato pragmatico. Quindi era uno che tu lo mandavi in un dibattito, li metteva in difficoltà i destri e i preti. Cioè, puoi dire tante cose, ma no che gli manchi la chiacchiera, la parola, Grillini. Quindi alla fine andava anche bene rimandarci lui, perché ci avessi mandato altra gente, mi ricordo certi dibattiti dove Pezzana era meglio se stava zitto, perché alla fine si faceva, ti veniva di stare dall'altra parte, perché non era in grado. Grillini questo lo sapeva fare. Però aveva bisogno del consenso interno. Io gli venni proprio a fagiolo, ma per arrivarci era presto, era prematuro. Questa cosa dell'Arci successe inizio primavera dell'89. Il congresso sarebbe stato a inizio 90, quindi Un 10 anno mesi dopo il dopo. congresso dell'Arcigay. Quindi lui usò quei mesi, più lui che io, che ero tutto sommato inconsapevole, per promuovermi. Cosa significò promuovermi? Io non lo so quanto lui c'entrasse nelle varie cose, ma secondo me c'entrava perché lui aveva tutta una sua rete di giornalisti che conosceva, patapim patapum, e quindi di cercare di infilarmi nei posti. In particolare, non so se attraverso di lui, ma è probabile, perché se uno voleva. Sapevano che c'era una lesbica visibile, a quel punto chiamavano Grillini, Grillini era ben contento di dargli il mio riferimento. In particolare, che ebbe parecchio impatto mass mediatico, fu un'intervista a Tele Monte Carlo. Tele Monte Carlo aveva questa trasmissione in orario di pranzo quotidiana fatta da Nino Castelnuovo, che si chiamava, Incredibile. non mi ricordo il titolo, vabbè, praticamente era un talk show che intervistava dei casi strambi. Tipo, dei casi strambi, si mescolava casi strambi, casi moderni, come si chiamava? No, la cerco io. Sì, forse lo trovi, è quasi scomparsa perché, tra l'altro, non la faceva Tele Monte Carlo, la faceva una società di Roma che poi la vendeva a Tele Monte Carlo, non mi ricordo come si chiamasse. Fatto sta che mi cercano, mi chiamano e dicono se sono disponibile ad andare a sto programma. Io era nella fase in cui ritenevo che fosse importante. Nel frattempo non credo di aver avuto tante altre interviste. Sul locale sì, perché dopo è uscito Epoca, sul locale feci altre interviste, alcune meglio riuscite, altre meno riuscite, ma comunque mi impratichivo anche su questa cosa delle interviste con quella dinamica che raccontavo prima, cioè che stavo creando un personaggio alla fine e io interpretavo quello, quindi la lesbica felice di viversi, che ci si può vivere, che non è detto che bisogna soffrire e piangere tutta la vita, che non è detto che bisogna ammazzarsi, che non è detto qua, eccetera. Quindi stavo un po' costruendolo, tanto che anche fisicamente io avevo cominciato già in quell'anno, ero andata a tagliarmi i capelli, per un periodo mi ero anche truccata, ma poi mi venne l'allergia, mi ero comprata degli abiti nuovi, che poi era le mie divise, avevo la divisa da congresso, avevo la divisa, vabbè, E questa com'erano questi abiti? è un po' maschili e un po' no, cioè giocavo sul palco, guarda, ero anche bravina, perché non c'era ancora sta moda, cioè sull'ambiguità. Dovevano essere ambigui, quindi per esempio per me andava benissimo una giacca maschile, la farfalletta che però la mettevo sotto la giacca, è un esempio, e poi magari di fuso. Io coi tacchi avevo difficoltà, però gli eventoni potevo anche mettermi un po' di tacco, che allora, sai, io avevo imparato al night, che l'ho raccontato l'altra volta, che mi vestivano. Quindi un po' di questo senso, e poi mi era diventata mia consigliera per gli abiti, altro che la Schlein, anch'io c'avevo la cromatromista lì, che era la Francesca Vaini, perché la Vaini invece non mi voleva, mi voleva, non mi voleva, c'aveva tutte queste cose, però mi voleva vedere messa bene, pissara com'è la Vaini, però ecco, non era una di classe povera, era una borghese, suo babbo era direttore della biblioteca. Si poteva Comunale. chiamare Io confesso la trasmissione? No, no, non era di questo tipo. Vabbè, niente, Guarda, Nino Castelnuovo, trovate questa di Tele Nino Monte Castelnuovo su Carlo. Tele Monte Carlo, ora la cerco Dopo la ancora. posso cercare. Se la dici, mi viene in Vai mente. avanti, vai avanti. Vabbè, che stavo a dire? Quindi stai dicendo avevi La cambiato anche Vaini, gli l'abbigliamento abiti, grazie alla Vaini. e quindi la Vaini andavamo a comprare l'abito assieme quando avevo bisogno, quindi lei per esempio mi ricordo avevo un completo all'inglese, non so come si chiamasse, lei lo sapeva, io no, che però ecco quello fa, no, vedi con questo puoi andare dovunque, io non ci credevo anche, quindi facevo, ascoltavo, mi regalò, mi ricordo che quello me lo portavo sempre e mi rendevo conto, erano quelle cose che creavano l'immagine. Era l'epoca degli orologi di Swatch, quelli grossi, i pop. E mi ricordo che c'avevo, me l'aveva regalato, che era nero con questa cinghietta tutta colorata, però più sul nero. Me ne comprai un'altra perché pensai che dovevo essere più colorata. E mi ricordo che me la comprai in rosa shocking. E quindi c'è questo coso nero, questo rosa shocking. Mi mettevo queste cazzate quando dovevo andare in giro, non nella quotidianità, quando dovevo andare a fare le interviste. Non mi ricordo come mi vestì per Nino Castelnuovo, ma avrò fatto un po' una cosa così. Questa trasmissione la giravano lì, durava tipo mezz'ora, tre quarti d'ora. Più o meno così, anche se questa è 3 anni dopo. Sì. Eh sì, saranno 91 lì, era Messina. Vai. Vabbè, sì, ecco, quello era Sì, un sì, po' sì, sì. lo stampo, una giacchettina, magari una cosa un po'. Aderente sotto. Sì, quella roba così che era un po' ambigua, che non volevo dare l'idea del femminile stereotipato, ma la mia preoccupazione è che le lesbiche passavano sempre a sono lesbiche perché nessuno le vuole, perché sono trasandate. Quindi non volevo dare, pur essendo io trasandata, non volevo dare l'impressione di essere trasandata, ma io sono trasandata proprio di natura. Però cercavo di non dare il trasandato. Quindi parto e mi ricordo che era uno studio verso Cinecittà dove si registrava. Nel frattempo io avevo cominciato a prendere contatti, poi racconto il parallelo, un po' incentivata anche da Grillini. Quindi vado, dovevano intervistarmi questa realtà che ero lesbica sostanzialmente. E io pensai, vabbè, io spiego che è bello essere lesbiche, io questo vado a fare. Quindi parto, vado, era sponsorizzata dalla Fonseca. La Fonseca era quelli che facevano le spadrillas, quindi bisognava togliersi le scarpe e mettersi le spadrillas. Poi si entrava in questo studio dove c'era un enorme divano, un coso grosso fatto divano, dove io l'ospite venivo seduta sul bracciolo del divano, che era enorme, quindi era un seggiolino. Dall'altra parte del divano in piedi c'era Nino Castelnuovo che mi intervistava e poi di qua c'era un pubblico da talk show, metti penso un centinaio di persone, già quelli che andavano, capito, per andare al talk show a gratis, andavano a questi talk show. Quindi vado e lì si comincia. Non mi ricordo come andò, però mi ricordo che tutto sommato mi misi abbastanza a mio agio, perché era evidente che l'intenzione di Castelnuovo era quello di farmi passare bene, non di farmi passare male, non di mettermi in difficoltà. Il problema era che io me la dovevo vedere col pubblico, capì quello. E io avevo imparato nel frattempo un po', piano piano, sono cose che impari, a parlare in pubblico. Quindi magari la capacità di guardare negli occhi quelle quattro persone davanti, in modo da vedere su chi, cioè chi anche ti rafforza, perché ti conferma in quello che dice, ce l'avevo. E mi ricordo che si va avanti, avanti, a un certo punto io quello che cercavo di fare era di togliere il lesbismo in quel contesto dall'immaginario collegato al lesbismo ad uso maschile. Io quello volevo togliere, perché per me era quella la cosa più urgente. La prima... La pornografia. Sì, cioè di toglierlo da quel concetto, anche perché era il motivo per cui a Verona non volevano chiamarsi lesbiche. Cioè, come facciamo se non togliamo l'essere lesbica da quel contesto, ma a livello di... generale, a livello comune, come facciamo poi a parlare di lesbismo a quella che mi viene da Trento, dai Monti, e che è disperata e che non riesce a viversi, è colpevolizzata, dobbiamo toglierlo. Quindi ero concentrata e mi ricordo su quello. A un certo punto, lì proprio davanti, che vedevo che erano abbastanza, rispondevano, c'erano due palesemente marito e moglie sui 70 anni, mi ricordo che mi venne proprio da dire, ma perché... L'amore fra due donne è amore, non è che ora è, certo c'è il sesso, ma è una cosa diversa. Io sono lesbica perché mi innamoro delle donne e l'amore è lo stesso, per esempio, di questi due signori che si vede che sono innamorati ora, e loro si illuminarono tutti e ci fu una battione. E sto dopo vedendolo, quando io dissi così, quando io dissi così, ripresero i due vecchietti, tutti luminosi, che battevano le mani. Questa puntata ebbe molto successo, perché effettivamente era una roba fuori di capo, nel senso che avevo recitato una parte, me l'ero inventata io, né più né meno, ma mi venne anche benino, con queste scarpe Fonseca. Poi lui era quello dell'olio cuore, era quello di Renzo, dei Promessi Sposi, che poi tutti dicevano che era Pinocchio, non lo so, magari era pure Pinocchio. Lui mi prese tanto a ben volere, perché aveva il suo caratterino. E questa trasmissione cominciarono a mandarla a raffica. Cioè io non me ne accorsi lì per lì, perché appunto tornai a casa, ero abituata ormai, tutti mi avevano visto, perché era un orario davvero che, cioè, popolare, quindi... Certo. Esatto, cioè poi Tele Monte Carlo, sì, Carlo, certo. Era una trasmissione, poi andava in onda tutti i giorni questo programma, di cui non ricordo il nome, e quindi c'aveva dei suoi spettatori affezionati, evidentemente. Questo, io credo che sia successo, che ha avuto ascolti molto maggiori del solito, quindi cosa fecero? Cominciarono a mandarlo in replica. È chiaro. E ogni tanto io trovavo gente che mi diceva, ma oggi... L'ho visto in televisione, era in televisione, e allora io capì che l'avevano rimesso. Fra gli altri, il cugino Renato è un mio cugino di parte paterna, che ha l'età del mio fratello, non si è mai sposato, ora io ho perso i contatti, ma uno che fra l'altro è sempre stato terrorizzato che lo scambiassero per gay, ma è uno che non se n'è mai uscito di casa, sono morti i suoi genitori, è rimasto lì e credo che ancora sia lì. Che lui lavorava e basta, questa era la sua vita. Non ha mai avuto fidanzate, se non una o due, ma dopo lo mollavano subito perché era una palla d'uomo. E siccome non conosceva nessuno, lui una volta tanto voleva venirmi a trovare a Verona. Allora io c'avevo anche pazienza, lo facevo venire, andavamo a mangiare la pizza, facevamo un giretto per Verona e lui tornava a casa contento, questo una volta l'anno. Chiama il cugino Renato, chiamami me, che vuol venirmi a trovare a Verona, dico, va bene Renato, vieni, non so che cazzo fargli fare, e mi ricordo, dico, ma non sei mai andato tu sulla Torre di Lamberti? No, fa lui, dai, allora oggi mangiamo la pizza, poi andiamo sulla Torre di Lamberti. Saliamo, c'è l'ascensore che va su, abbastanza grande, metti un ascensore, ci sta 8 persone, saliamo, mentre saliamo, vengono anche dell'altra gente, un vecchietto fa, ma lei era in televisione oggi? Oh, Madonna, hanno fatto andare un'altra volta a Tele Monte Carlo. Ma dove? Su Tele Monte Carlo, era su Tele Monte. Ho detto sì, sì. Cugino Renato alza le antenne e poi appena scendiamo fa, ma davvero eri in televisione? Sì, Renato, sì, ma davvero? Ho detto sì, Renato, ma e di cosa parlavi? E io, oh Madonna, che dico? E io, di omosessualità. Cugino Renato è imbiancato, dopo un po' si è scesi, non l'ho mai più visto, non è mai più venuto a trovarmi a Verona, così mi sono liberata di Cugino Renato. E tutto ciò. Sta trasmissione andava così bene, ma così bene, che dopo un po' mi richiamano. Loro, per fare sta trasmissione, avevano anche un opinionista, che era una tal contessa di Firenze, che era una matta, cioè una specie di Marta Marzotto invecchiata, che era una contessa, però la trasmissione era in calo, ho capito dopo. C'era già da 2 o 3 anni, e quell'anno lì è stato l'ultimo anno in cui c'è stata, evidentemente. A parte la mia puntata che ha avuto questo successo, io penso che ormai aveva fatto il suo tempo, diciamo. Specchio qualcosa. Specchio della vita si chiamava, Specchio della vita. Specchio, e quindi mi telefono e mi dice, ma senta papà, perché mi aveva dato tipo il rimborso spese, un gettone di 200.000 lire, una qualcosa. Mi chiamano da questa produzione dicendo, senta, ma avevamo pensato se lei potesse venire con un ruolo diverso per un'altra trasmissione. Dico, ma come, eccetera. No, ma come opinionista, perché quella di la contessa. La contessa, fatto il suo tempo. Non me lo dissero proprio così, ha dei problemi, non sempre può venire. E io dissi, ma io veramente lavoro a scuola, non è che posso fanno tutti i giorni. In realtà me la facevano tutti, la registrazione la facevano 2 volte alla settimana. Sì. Ne facevano 3 trasmissioni al giorno, la registrazione. Quindi metti una dalle 9 alle 11, poi una magari dalle 11 all'1, mangiavano, e poi dalle 3 alle 5 un'altra. Quindi nell'arco di una giornata facevano tre giorni, in 2 giorni facevano. Io dicevo, io non posso venire 2 giorni, posso provare a sentire se posso venire un giorno la settimana e farne quindi 3 trasmissioni. Quindi vado a scuola, parlo col preside se posso fare un giorno di ferie a settimana. Facevo già il conto, partivo la sera o la mattina con l'aereo, perché loro mi pagavano qualsiasi mezzo di trasporto io avessi voluto. Facevo le cose, poi tornavo sulla sera, arrivavo alle 4 del mattino e la mattina dopo andavo a scuola, perché pensavo, ma se vado, visto che ha funzionato, io ogni volta dico, perché io in qualità di lesbica, e quindi promuovo, e quindi parto e vado a fare sta roba. Era una roba assurda, perché allora si fece, penso che sia durato neanche un mese sta storia, 3 puntate io e 3 puntate la contessa. A me mi toccarono una volta, io intanto stavo lì, ascoltavo, poi magari intervenivo 2 volte, dicevo 2 cazzate, premettendo sempre perché io in qualità di lesbica, così facevo. Una volta ci fu una che aveva questa caratteristica, parlava alla rovescia. Ti giuro, cioè diceva una parola, parola, allo-op, e parlava tutta così. Ed era uno spettacolo da far vedere. E quindi bisognava dire qualche cosa su questa diversità particolare. Un'altra volta, fu quando iniziò, quindi invece era un po' più seria, vennero quelli dello slow food, che nasceva allora, secondo me. Quindi vabbè, un certo approccio alla... Questa cosa qua. Fatto sta che vado una volta, vado 2, loro mi davano... cioè concordai tipo 200.000 o 300.000 lire e in più mi pagavano il viaggio, il rimborso del viaggio, quello che spendevo andare, tornare, eccetera, e me li davano a fine, subito, sull'unghia, così in contanti. La prima volta va bene, la seconda volta io tra l'altro pigliavo un treno alle 9 da Roma, che arrivava, no, alle 8, che arrivava a Verona tipo alle 3, alle 4 del mattino. Com'è, come non è? Rimasi tra Roma, era ancora ai tempi dove c'erano gli espressi, queste cose, tra Roma e Firenze qualcuno passò con la bomboletta, mi addormentarono, mi rubarono ogni bene. Quando mi svegliai dopo Firenze, non c'avevo manco più il biglietto del treno. A Bologna mi volevano far scendere perché non avevo più il biglietto, mi avevano derubato. Allora io dovevo arrivare a Verona, non posso scendere a Bologna a fare la denuncia. Io, a parte che non c'ho una lira, cioè all'epoca non è che ci fosse il cellulare, che ci fosse nulla, ero in balia delle ferrovie nella notte. Arrivai a Verona, mi misero, per non farmi viaggiare nel treno, nel carro merci, assieme ai pacchi, il treno, arrivata, feci la denuncia alla polizia e io dopo quella dissi no, non può andare a lavorare, se non ce la posso fare. E rinunciai a questa mia carriera appena iniziata, no, di opinioni commentatrici. Però poi tanto, questa me l'ero persa. Finita la stagione non la fecero più. Specchio della vita si chiamava. Ah, però era innovativo, diciamo. Fatto sta che questo ebbe tanta, tanta visibilità con questa cosa, che fu utile, perché io nel frattempo Grillini era in segreteria nazionale dell'Arcigay, quindi lui mi incentivava in questo, e metti magari a chiedermi l'articolo sulle donne da mettere al tempo, c'era contatto su queste cose, e io pensai che dovevo avere un progetto, perché avevo cominciato ad andare in giro, e pensavo come si fa a far arrivare le donne all'Arcigay a livello nazionale, perché a livello locale erano arrivate col gruppo del giovedì, cioè eravamo autonome. Poi io, per carità, ero anche nella segreteria dell'Arcigay di Verona. Noi come Arcigay Donna non avevamo un'organizzazione, per cui cariche, era un gruppo spontaneo, cioè un po' un collettivo, se vuoi, che però dall'Arcigay aveva lo spazio, aveva il telefono, in modo da avere la possibilità di far arrivare le donne, mettevamo gli adesivi, cioè ci dava la possibilità di fare attività. Quello che facevamo era cominciare a fare delle festicciole, quello che hanno fatto poi tutti i circoli, no? Chiedendo la saletta di qua, dall'Arci, chiedendo la saletta di là, quindi in qualche maniera era partito, con tutte le mie brave contestazioni, perché dopo non è che mi amassero tanto. Non tutte, però c'era chi non mi amava per niente, perché ero troppo entrante. Cioè, nel senso, a volte mi incazzavo, perché magari io facevo tanta fatica, tanto investimento per riuscire ad avere quella sera la sede, eccetera, e poi mi incazzavo perché magari scoprivo che io ero arrivata tardi, loro non avevano fatto niente, stavano a parlare del prezzo del latte e di queste cose qua, a chiacchiera, e puoi fare a casa tua. E io mi incazzavo. E quindi c'era chi non mi amava per niente, allora cercarono di fare un gruppo alternativo, lo fecero anche perché loro volevano essere separatiste alcune, insomma per mettere la folla contro di me, chiamarono pure Elisabella Tolfo, una mia vecchia fidanzata di 15 anni prima. Sì, di cui ci avevi parlato l'altra volta. Avevo parlato, sì. Ecco, pure lei tirarono fuori, che venne alle riunioni come ah ciao ciao, ma per dire che io ero una stronza sostanzialmente, però insomma su questo sopravvissi anche a questa cosa, nel senso che poi però avevo anche quelle che invece cioè investivano su questa cosa, una fu il periodo in cui cominciò ad arrivare la Bonomi e altre, cioè che erano quelle che poi facevano gruppo, quindi alla fine non ce la fecero. Fecero un altro gruppo che durò tipo 6 mesi e poi sparirono. Questa che mi doveva contestare, ecco, per dire che non è che fu tutto, cioè c'era una contestazione ogni 2 per 3, cioè è sempre un terreno accidentato. Ma te in quel periodo quindi ti muovevi molto da Verona? E mi muovevo anche molto da Verona per portare il verbo. Ma il verbo, dovevo anche dire che verbo porto io ora. Cioè che cosa vado a dire a sta gente che ora dicono ah no, ma perché allora ora ci sono le donne nell'Arcigay. E quindi pensai bene, dico io devo fare un progetto. Perché era l'epoca in cui si cominciava alla lontana a ragionare per progetto. Cioè, poi è diventato di moda, ma all'epoca non c'era ancora, specie in Italia, questa mentalità. E io pensai che il concetto di progetto mi piaceva, perché era affine al mio modo di pensare, cioè di dire faccio un... E avevo trovato, prima dicevo che la mia era, cioè non sarei stata in grado di far teoria perché non avevo le basi, neanche poi di far politica in senso vero e proprio. ero più che altro una stratega. Un progetto è una strategia con un'analisi, un obiettivo, delle modalità, dei fini. Quindi pensai, ecco, guarda, quello potrei far così. Cioè scrivere una strategia per una presenza delle lesbiche dentro l'Arcigay a livello nazionale. Lo chiamai progetto Arcigay Donna, perché noi si veniva da lì, e invece questo progetto Arcigay Donna che scrissi durante un viaggio, al tempo mica c'era il computer, a matitina e pennetta, da Verona a Roma. Da Verona quando partì, a quando arrivai a Roma, passai tipo 8 ore, e ci avevo pronto questo progetto Arcigay Donna. Non proprio scritto tutto, ma io dopo so così, cioè le cose che riesco a fare le faccio subito e dopo se le lascio lì magari muoiono lì. E difatti lo scrissi lì, poi non andai più avanti e a un certo punto però pensai, senti, com'è? Facciamo così, lo batto a macchina. Ovviamente fu più fatica a batterlo a macchina che non far scriverlo, ci misi un po' e c'è ancora in giro. E tutto per bene, feci analisi, obiettivi, tutto per benino. E anche una strategia avevo studiato, che poi si è realizzata fino a un certo punto, ma che non prevedeva la nascita dell'arcilesbica, ma quasi, cioè nel senso, ma non come poi è nata, ma quello a cui io credevo fortemente era non che le donne sarebbero poi uscite dall'arcigay, ma che gli uomini avrebbero rinunciato a fare l'associazione di cui le donne erano una costola. Però si partiva come una costola, ma con questo obiettivo. E io avevo anche specificato le varie fasi, i convenienti che pensavo di fare, tutto questo. E cominciai a fare un po' di fotocopie, facevo a scuola, la Sandra faceva le fotocopie, e cominciai a partire. Cioè, quando c'era un gruppo magari più o meno organizzato, io glielo mandavo, o se mi invitavano andavo a portarglielo, spiegavo come mi pareva, finché a un certo punto Grillini si accorse di questa cosa, perché ovviamente lo mandai a tutti i circoli arcigay, in modo che se c'erano delle donne, mi ricordo le prime a saltar fuori che esistevano delle donne con un minimo di organizzazione dentro l'arcigay fu a Napoli, c'era un gruppino di lesbiche giovani, anche quelle, perché poi in realtà io mi rivolgevo e quelli che mi rispondevano su questo avevano tutte mediamente 10 anni meno di me. Quindi era quella fascia generazionale. Poi c'erano le altre, ma le altre proprio manco gli interessava, oppure alcune magari dicevano sia interessante. Però ecco, l'unica che lo trovò interessante fu la Diana Borghi, che non so cosa ci vide, ma la Diana Borghi è sempre stata una delle sue caratteristiche di essere curiosa. E quindi io da lì pensai, beh, se si vuol fare sta roba, bisogna fare una riunione nazionale. Ma io come faccio a organizzare una riunione nazionale? Perché sì, ora riporto questo, ma poi gli va dato anche gambe a questo. Quindi disse a Grillini che secondo me l'Arcigay mi doveva dare i soldi per fare una riunione nazionale. Dove? A Verona, perché io lì posso organizzarla. E si pigliò questa caverna, che era questa agriturismo, in qualche cella, dove noi di solito si andava a fare il 28 giugno. E avevano delle camere, e quindi nulla, andai e organizzai questa prima riunione, ed era a quel punto ottobre dell'89, invitando quelle che avevo raggiunto. Io quello che feci con i soldi datemi da Grillini, che metti sarà stato 1,5 milioni, una roba così, non è che furono delle cifre, per me era tante, non è che il circolo di Verona avesse soldi, non avevamo... Questo 1,5 milioni lo investì così, cioè pagai il pernottamento di che si stava una, non mi ricordo se era una notte o due, non me lo ricordo, secondo me una notte, metti era dal sabato mattina a domenica sera, non mi ricordo, quindi pagai il posto e poi pagai tipo la cena o due cene e detti anche rimborsi spese. Poco, feci un po' i conti di chi veniva, chi mi aveva comunicato, quindi alla fine una cosa che non gli era mai successa, secondo me, a queste, una cosa, cioè quelli erano i soldi della Arcigay, cioè voleva le donne, almeno pagassero almeno questo. Per fare le assemblee nazionali ci pagavano sempre il rimborso spese e il viaggio, io dovevo mettere su questa roba almeno, cioè perché comunque dava anche una sensazione che non ero una scema, che all'Arcigay manco sapeva chi fosse, cioè... che lo ti davano in giro, cioè se riesco a farmi dare i soldi, vi offro certo. Il posto dove dormire, che poi fu quello dove successe di tutto, dove la Mara arrivò con la Mirella e alla fine con la Mirella ci partì la Naina. Quindi anche quello fu in questo posto. Per cui ci fu anche tutto quell'elemento che è sempre stato un elemento che io avevo visto nei racconti dei gay, cioè che era l'elemento dove queste riunioni nazionali non erano solo certo. Una strategia politica, eccetera, ma c'era la gioia di viversi, di conoscere, di crescere, di... Ed effettivamente quello si vide lì, no? Che anche solo questi movimenti di... E mi ricordo che arrivò, che si era costituito, che era poi la Naina. Quante eravate, scusami? Allora, ora se tu leggi dovunque mi tizzano 300 lesbiche, sarei stati in 30 o 40, perché sennò dove li pigliavo di soldi? No. Cioè, sì, ecco, non erano 300 lesbiche. 300 lesbiche sarà stato un comunicato, una dichiarazione di Grillini, magari fatta successivamente, che tanto lui diceva che eravamo 50.000 tesserati, nessuno sapeva quante teste si facevano, quindi 300 lesbiche no, neanche 100, neanche 50, secondo me 30 o 40, se mi ricordo bene il numero dei posti a tavola. Feci anche il menù, la musica, misi la Bonomi, che, e poi mi ricordo alla fine spazziamo anche la sala alle 2 di notte e c'era sta camerata dove tutte dormivano, poi quelle che più voleva c'era anche qualche stanzina, insomma si fece questa cosa. Ma scusami, grazie Dina, ma allora chi venne? Quindi venne, c'era tutto l'elenco, c'è credo anche in giro, ecco. Venne, la Diana Borghi venne, ma non aderì, la Diana Borghi venne come osservatrice, anche la Nerina secondo me venne. Ci sta. Poi venne una serie di tipo quelle di Napoli, venne, c'era il momento di SR, c'era Prospettiva Socialista, che c'era a Roma, vennero quelle e anche una che dopo quella che fece l'Arcigay di Genova, che era tutto di donne, che era sempre SR. Ah, ok. Poi chi altro c'era di... sì, la Naina, la Rita Faustini, che poi no, la Nina, perché se no rimarrà Naina nella registrazione, si chiama Nina, se prendiamo in giro a Firenze questa macchiera, poi sì. Si trasferì a Firenze la Nina Pecci, che si chiamava Blu di Metilene, che il giorno stesso fece un comunicato dove il Blu di Metilene aderiva all'Arcigay Donna, entrava a far parte dell'Arcigay Donna, insomma alla fine di questa roba avevamo tipo 5-6 gruppi che si definivano Arcigay Donna sparsi per l'Italia. Da Torino però non aderì bene la Susi Monzali, che loro facevano parte dell'Arcidonna con un gruppo che non mi ricordo come si chiamava. L'altra uscita. L'altra uscita, che però facevano feste per lesbiche. E io quello che secondo me lo fece anche intelligentemente nella mia strategia, non era che noi si cercasse l'adesione all'Arcidonna, noi si voleva presentare cosa l'Arcidonna intendeva fare. Dentro si gay, non che, e che però questo per noi era fondamentale avere la collaborazione di tutte le realtà, perché io invitai tutte, cioè non perché entrassero tutte nell'Arci gay donna, che è quello che dopo l'Arci lesbica non ho mai capito. Cioè l'obiettivo non era quello di fare l'associazione cappello, era di fare un'associazione che faceva, che aveva la forza in quel preciso momento, non per sempre, di fare un lavoro di visibilità a livello generale, ma che però chiedeva, e io quello ce l'ho cominciato ad averlo chiaro lì, che però chiedeva tutto il supporto necessario a quello che era il percorso del lesbismo separatista che c'era prima, cosa che venne la Diana Borghi, lo capì, quelle altre non c'erano, non lo capirono, ma difatti la Diana Borghi poi ha sempre sostenuto quel percorso, come anche la Nerina, per quanto non abbia mai, però la Nerina non ha mai poi attaccato, eccetera, che non vennero, furono quelle del CLI, le romane, ma cioè per me non fu un problema, per me il risultato fu che era partito un percorso di confronto, di scambio a livello nazionale a partire dalle periferie, perché per me quello che qualificava il tipo di lavoro che stavamo facendo fu quando io scoprì che il primo gruppo che venne fuori era Napoli. E noi eravamo a Verona, quindi paradossalmente eravamo noi per motivi geografici di isolamento, Napoli per motivo del sud, cioè erano proprio le realtà con meno potere quelle che in quel momento stavano emergendo. Una generazione che tra l'altro non aveva avuto, generazione che veniva da luoghi che non avevano accesso a quel lesbismo che io stavo cominciando a imparare che esisteva a prescindere ben prima di noi, ma io lo stavo imparando allora, e se non succedeva questo io mai avrei saputo che c'era, stavo là a fare la... E per me fu un grosso risultato, ma questo a prescindere, cioè per me quella era comunque la via, cioè mi resi conto, ma fui contenta, ecco, di come andò, di chi dette l'adesione, di chi... l'Aliana Borghi si fissò per 2 giorni per fare un documento comune di tutti i gruppi presenti, e ci si riuscì. Era un documento che come punto principale, mi ricordo, aveva quello della memoria storica, e che era proprio quella cosa che io cercavo da quei gruppi come loro. Quindi, secondo me, fu un bel risultato. Grillini non era stupido, e io poi per me la Diana Borghi era una qualsiasi, per Grillini forse no. Ma io, cioè, ero proprio, sono sempre stata parecchio ignorante, distratta, non c'ho memoria, quindi alla fine non ho mai valutato le situazioni dall'importanza delle persone che c'erano o non c'erano. Per me fu una bella situazione, cioè ci si divertì, ci si prese anche in giro. Grillini, visto questo, visto che evidentemente poi cominciarono a parlarne in giro, qualcuno era venuto da Bologna, pensò, secondo me era mal partito con la sua candidatura, a febbraio doveva esserci il congresso nazionale, e mi chiese se ero disponibile a candidarmi come segretaria nazionale. Andò così. Io gli dissi, Franco, io così com'è no. Io sono disponibile solo se cambiamo lo statuto. E si cambiò lo statuto. E io per entrare in segretaria nazionale, come segretaria nazionale dell'Arcigheiro, cambiai io lo statuto, che fu quello che mi imbufalì quando poi l'arcilesbico uscì e quelli cambiarono lo statuto togliendo tutte le parole sessuate per farlo diventare solo maschile poi nel 96. E lì passai tutto, e la cosa di più era che ogni circolo che aveva sia un gruppo di uomini che di donne aveva diritto ad avere 2 rappresentanti in direzione nazionale. Chi aveva solo donne uno, chi aveva solo uomini uno. Nella segreteria nazionale doveva esserci un numero paritario di uomini e di donne. Ovviamente in direzione nazionale non potevo, perché la direzione nazionale era quella che esprimeva tutti i circoli, quindi quello era una prospettiva. E andò così. Ovviamente io non avevo considerato una cosa, per me il livello della visibilità e di questo personaggio che avevo un po' inventato era quello lì. E quindi feci questa operazione, accettai, mi ricordo lavorai a modificare sto cazzo di statuto, a cambiarlo, a battere la macchina, poi a mandarlo al Dartenuc che me lo mise, risistemò, eccetera. Per me quella era la mia proposta. E c'era anche la proposta di modifica del nome, che però non c'entrava ancora con la presenza delle lesbiche, che era Arcigay Movimento Libertà Civili, che per me era il passaggio a un associazionismo che non fosse più solo settoriale, ma che fosse... Quindi in questo mi ci riconoscevo, e si fece questo passaggio. Poi... mi era venuto in mente un'altra cosa, che altro c'era che... l'altro elemento era l'Arcigay Donna, allora, che nel frattempo aveva avuto già una sua, non una sua struttura, perché non ce l'aveva ancora avuto, ma delle adesioni a questo progetto. Arcigay Donna era il nome che ufficialmente vi siete date? A questo punto sì, perché io l'avevo denominato Arcigay Donna, nessuno disse lo cambiamo, e quindi, cioè, i comunicati che cominciarono a uscire fu le donne dell'Arcigay di Napoli aderiscono all'Arcigay Donna. Cioè, era nato ancora dal famoso giovedì, l'Arcigay diventa donna, era nato perché lesbica, dicevi, non era un termine in quel momento spendibile. Si poteva anche fare, ma il problema è che avrei dovuto io cambiarlo, non ero manco preparata a sostenere sta roba. Io in quel momento lì, quello che volevo fare era arrivare più nel profondo possibile della periferia, e non mi, cioè, non mi volevo ritrovare ad avere a che fare con un'associazione che si voleva, che si fosse voluta misurare sulla teoria, su cui ritenevo altri più capaci di me, di mettermi a discutere di sta roba, quindi a costo di fare la figura di quella che, da pigliare in giro, perché che cosa perde poi, dico, vabbè, ora che figura ci ho fatto. Però io mi definivo lesbica comunque, mi sono Certo, mai definita gay, gaia, eccetera, sì. No, io no, vabbè, ma c'ho era più un... qualità di lesbica. Comunque era Però il un... nome rimase quello, nessuno, tanto che il Circolo di Firenze, a voi non è venuto in mente, voi fiorentine, di modificarlo inizialmente, cioè pigliarono quello e divenne arcigay, arcigay donna, perché era nato così, a volte sono le casualità, no? Quindi, Certo. cioè lì mi trovai anche a quel punto, lì a quel punto me la vidi un po' difficoltosa, nel senso che mi trovai a... mi ricordo vagamente il mio intervento, quello che avevo pensato di dire e che poi ho sempre ribadito per gli anni in cui sono stata segretaria nazionale, che io ero segretaria nazionale sia dei gay che delle lesbiche dell'arcigay. Non ero la segretaria nazionale delle lesbiche e Grillini il presidente nazionale dei gay. Cioè eravamo la stessa associazione e io volevo dire la mia anche sulla politica che facevano loro. Loro potevano dire la loro sulla nostra, però noi in qualità di donne eravamo sempre state svantaggiate e avevamo bisogno noi di trovare la nostra politica e quindi, per esempio, la segreteria nazionale veniva eletta solo dalle lesbiche, da chi si ritrovava in questi Cioè la convegni, componente congressi. lesbica della segreteria nazionale, la componente La lesbica. componente lesbica, la segreteria nazionale, gli uomini non dovevano mettere bocca, perché sennò pensato poi ci mettono quella finta, perché tanti venivano con le lesbiche rappazzonate per avere il rappresentante di più. Non è che non lo vedessi. Massimo Mele ogni tanto veniva ogni volta con una diversa da Sassari, poi c'era quella di Messina che, boh, cioè, quindi c'era anche questa cosa, che per me l'unica garanzia era quella che, di costituire un gruppo forte, cioè che era quello che era, aveva cominciato a nascere a Verona, in quell'incontro, cioè partire da lì e dire noi ci assumiamo, non è che posso assumermi sempre tutto io. E negli anni successivi, periodicamente, c'erano questi incontri, una volta lo chiamavo seminario, un'altra volta lo chiamavo... che l'ho chiamato quello di Verona, la convention, una roba, vabbè. Il primo che fu organizzato non direttamente da me fu quello organizzato dall'arcigay, arcigay donna di Firenze, che era ancora quello, che era quello le formiche nel loro piccolo, anche le lesbiche nel loro piccolo si incazzano, che io lì, in realtà mi ricordo, quello secondo me successe nel 93. Novembre 93. Quindi era già passato parecchio tempo, quindi passarono 3 anni prima che ci fosse un gruppo in grado autonomamente, Di fare a qualcosa. prescindere da me, di pigliarselo in mano. Io sinceramente, per com'ero io, veneta, di Verona e tutto, già il titolo dicevo, boh, io che avevo creato tutta un'immagine, cioè, che era appunto mediato da quello di Serra, no? Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. Poi fui contestata sulle unioni civili, cioè in realtà io non è che avessi delle particolari posizioni, ma l'arcigay nazionale sì. Quindi a me fu molto sano per me personalmente, però stiamo già parlando molto dopo, perché in qualche maniera mi sentivo anche messa, non dico buttata fuori, però dire ecco, l'arcigay donna non sono più solo io. Chiaro. E dire che l'arcigay donna non sono più solo io, devo dire, oh, mi rese contenta. Ovviamente per arrivare lì sono passati 3 anni in cui è successo, cioè, tante cose pesanti, ma in particolare fu proprio quel nodo della mia elezione a segretaria nazionale dell'arcigay, dove io mi resi conto di come il mio essere donna mi metteva in una situazione dove io dovevo lavorare, non avevo i rimborsi che aveva Grillini, facevo debiti per leggere i giornali tutte le mattine perché se poi mi dovevano intervistare dovevo sapere cos'era successo al mondo e a me non me li rimborsavano. Dovevo preoccuparmi della segretaria nazionale, di quello che succedeva, di essere comunque, di poter dire la mia su tutto, ma contemporaneamente nessun altro si sarebbe preoccupato della presenza delle lesbiche dentro a quell'associazione con un credito da riscuotere e quindi mi sentivo la garante di quella presenza, anche trovando strategie, perché poi la mia capacità è sempre stata quella alla fine, di studiare delle strategie. Quindi, non so, devono essere quelle le donne dell'arcigidonna che scelgono quelle che vanno in segreteria. Erano tutte strategie, non era chissà che politica profonda, però senza quella strategia non vai da nessuna parte, perché ti asfaltano subito. Una cosa che anche lì mi cambiò e mi rese difficile, perché fu un impatto molto grosso, io non mi ero resa conto di che cos'è una visibilità mass mediatica come quella che ebbe in quel momento, non avevo idea. Perché dissi, va bene, dissi, mi preoccupai del cambio di statuto e per me la visibilità mediatica era quella che succede che magari vado in un'altra trasmissione, tipo quella di Castelnuovo, e poi mi vedono, ma tanto ormai l'avevano vista, e quindi il che mi cambia, mantengo il mio format che mi sono data, recito questa parte. Fatto sta che invece quando poi andavo alle riunioni, non è che andassi a recitare una parte, quando andavo alle riunioni della segreteria, eccetera, lo stesso quel congresso. Io per quel congresso mi ero preparato il mio intervento, dove appunto sono la segretaria sia degli uomini che delle donne, dove pretendo una totale autonomia di scelta politica da parte della componente lesbica, tutte le mie cose, quindi ero concentrata su quello. La mia vita nel frattempo però, cioè, in tutto ciò, non è che potesse andare proprio nel migliore dei modi, che fosse tanto rilassante. Cioè, era una vita dove progressivamente dormivo sempre meno, bevevo sempre di più, perché a volte anche per reggere bevi, no? Cioè, sei fuori la sera, bevi. La mia vita sentimentale era un disastro, nel senso che stavo con questa Francesca Vaini che non sapeva se mi voleva, era tutto una par così. Cominciai anche ad avere un po' di visibilità e quindi io non me ne rendevo conto, ma per certo potevo diventare anche un po' una specie ero desiderata in quanto quella visibile. Sì, sì. C'avevo quelle che mi telefonavano, che volevano, magari mi cercavano. Io non volevo niente di tutto ciò. Con la Francesca andava male, era sempre un litigio. Credo che in quel periodo poi conobbi anche la Betty, o subito dopo conobbi anche lei, quindi con due, poi tutto un affare, poi andavo in giro, c'era quella che mi tirava su, magari ci andavo a letto, poi mi pentivo il giorno dopo, e dopo non volevo più vederla, poi c'era chi l'aveva vissuta così, ma c'era chi poi mi torturava per settimane, e però dovevo anche andare a lavorare. In tutto ciò, la sera prima, l'unica di cui io mi fidavo, che mi aiutava sempre, con cui non ho mai avuto relazioni sentimentali, era la Bonomi. Sì. La quale Bonomi mi accattava sempre e diceva: te Bertozzo non fumi, perché dopo sennò dai di fuori, te Bertozzo bevi pure, però poi ti porto io. Mi regolava e lei era contentissima di questo. Lei non è mai stata visibile, è sempre stata... Però potevo contarci ciecamente sulla Bonomi, cioè mi sarebbe andata a ritirare a Mosca, se andavo a finire a Mosca. Lei era un po' la mia, neanche un paracadute, una specie di telo del trapezio, ecco, no? E quindi, però era una vita faticosa, perché andavo in giro, tornavo a casa magari alle 6 del mattino e ero capace che andavo a lavorare. Poi a un certo punto crollavo, non riuscivo più ad andare a lavorare. Allora inventavo balle, poi non avevo coraggio di andare dal dottore. Allora la Sandra mi telefonava a casa, diceva: allora perché non vieni? Guarda, a volte era un disastro. Ma quanto è durata questa vita? Quanto tempo? Questo è durato per 4 anni in realtà, Cioè è durato tanto. Comunque questa era la mia vita anche in partenza, quindi... Quel febbraio, quel tal venerdì di febbraio che bisognava andare a Bologna, che c'era questo congresso nazionale, già cominciai a dire: però qua devo stare un po' attenta, perché il pomeriggio venne un giornalista di Repubblica di Verona a chiedermi un'intervista. Perché Grillini, da Grillini come sempre stato, prima che ci fosse tutto, aveva fatto una conferenza stampa dove aveva detto che io sarei stata eletta, ma doveva ancora esserci le elezioni. Lo faceva ogni congresso, a me mi faceva Sì, incazzare. cioè, quindi io Prima non si ero. votasse, lui diceva che lo avremmo votato. Cioè, quindi scusa Mamma mia. un attimo. Quindi mi venne questo, Cioè, io. parecchio scorretto, tra l'altro. Madonna. Quindi io ero un po' così, cercai di vegliare, ma soprattutto sta questo, fece un articolo su Repubblica, prima ancora del congresso, che però io non l'avevo visto, mi chiese anche una foto, io dicevo, non aveva il fotografo, mi diede una mia foto dell'album vecchia, di quando ero, era questa foto che mi pareva un po' somigliante con com'ero allora, ma semplicemente perché avevo le cuffie di quando lavorava a Radio Popolare, quindi c'ero io in radio con le cuffie, quindi sembrava avessi i capelli corti anche se non li avevo, quindi mi sembrava la più somigliante. Fatto sta che la mattina dovevamo partire, essere là, metti alle 10, si partì tardi, mi ricordo venne Roberto Aire, da Bonomi, Roberto che correva in macchina e io che dovevo finire di scrivere il mio cazzo di intervento. Quando si arriva a Bologna, qualcuno dice: avete visto Repubblica? C'era già l'articolo di Repubblica, che l'aveva già pubblicato Di questo già di Verona. Sì, la mattina. quindi io arrivo, Madonna, essendo però. comparso questo articolo di Repubblica, già eravamo in ritardo, siamo arrivati un'ora in ritardo. Io dicevo anche: vai piano, Roberto, non ho ancora finito il mio intervento. Poi arrivo là, mi mettono subito a fare l'intervento, almeno fammi pigliare nota. Arriviamo, siamo, parcheggiamo. Andiamo al vecchio cassero, ma prima di arrivare al vecchio cassero, mentre noi arriviamo, avanza una massa verso di noi che gridano: è lei, è lei! Madonna! E cominciano a fotografarmi. La Allora Bonomi comincia a parte. nascondersi e io rimango come interdetta e non me l'aspettavo perché, cioè, non ero ancora stata eletta segretaria nazionale dell'Arcigay. E lì è partita una baraonda che non è finita più. Chiaro, chiaro. Ma durante, come dire, ovviamente durante quella giornata lì nessuna ti è andata come doveva andare, cioè ti hanno eletto. Durò 3 giorni. Io, Ah, 3 giorni. fra l'altro, Non non si avevo neanche incazzò, vestiti non puliti. si incazzò nessuno perché eri stata Già annunciata eletta. prima. Quindi eletta Si così, per incazzarono quelli dei miei, gli altri erano acclamazione. dei coglioniti, e alla fine di te nel palco Teobaldelli, però nessuno osò attaccare direttamente Grillini su questa cosa, se non quelli del Nieni, col grillinescu. Chiaro, chiaro, chiaro. Anche perché avevano fatto al Cassero, in quell'occasione, una mostra dei gioielli della Raissa, perché era l'epoca di Gorbaciov. Era appena crollato il muro e quindi c'era un po' tutto questo, quindi Grillini si nascose un po' dietro quello, per questo divenne grillinescu. La mia presenza, vennero anche parecchie donne a quel congresso, questo fece sì che fosse un po' quasi scontato, Ok. cioè nel senso era una, io non l'avrei mai fatta questa cosa, Grillini la fece ovviamente per gettare fumo su, perché poi quello su cui lui era attaccato non era questo, non era la mia candidatura, anzi secondo me aver fatto fuori quelli di Milano ha reso contenti tutti gli altri, quelli di Milano erano peggio, quindi questa gente qua un po' era stata allontanata, anche se lui poi l'ha tenuta dentro sempre negli anni. Certo. E però la cosa scioccante per me è che mi resi conto che la visibilità che avevo avuto fino ad allora non aveva paragone. Era un'altra cosa, cioè c'era che quella volta mi chiamavano, poi mi vedevano, poi la gente diceva: ah, qualcuno mi aveva visto. Invece no, perché il giorno dopo fui su tutti i giornali a quel punto, con questa situazione, fra l'altro, che il fatto non è che c'ero io, è che c'erano le lesbiche. L'eventone era che finalmente potevo fotografare delle lesbiche, cosa che non era mai accaduto. Che le lesbiche del movimento accettassero di parlare con i giornalisti. E io invece accettavo di parlare con i giornalisti, ma io accettavo di parlare con i giornalisti, e però il mio timore era: qua scappano tutte, perché non erano visibili. E quindi anche questa cosa, intanto, di chiarire che la visibilità era comunque una violenza. e che la visibilità doveva essere dell'associazione e non della singola, che certo una ci vuole in questo momento, mi presto io, ma non è l'esempio, il modello, non è che tutte dobbiamo andare sui giornali, che tutte dobbiamo farci fotografare, sono cazzi nostri. Però per fare questo percorso serve anche questo aspetto, ma come strategia, cioè, quindi anche questa per me era una strategia, cioè io ho sempre avuto un po' questa pisima, quindi anche questo pezzo l'ho condotto con questo obiettivo, una Ma strategia. quindi è cambiato da questo, cioè questo passaggio poi ha comportato un grosso cambiamento sia del tuo far politica e Io ho della continuato a tua, fare che così quello banalmente che della tua avevo fatto. quotidianità, del ti sei mossa di più, è cambiato Sì, qualcosa? quello che è cambiato è che se prima era sufficiente che facessi un viaggetto ogni 15 giorni o decidevo io, a quel punto ero sballottata, nel senso che avevo inviti per i primi 6 mesi ovunque. Ovunque, che vuol dire, per farci capire, Per nei esempio, il primo circoli, nei... invito, che mi ricordo lo promossero come il primo dibattito, il primo invito a Bergamo, organizzato da un circolo Arci con tutti i giornalisti bergamaschi e fu l'eventone dell'Eco di Bergamo, no? Però Dove scusami, dal punto di vista formale, quindi in questo momento te diventi segretaria allora. di Arcigay. Arcigay, unica Sì, segretaria. Ok. cioè era così Era come c'era il essere presidente, il vicepresidente. segretario o la segretaria, insomma, Ok. erano due Cioè, cariche. Più o ok. meno la segretaria o il segretario era il vicepresidente. Sì, è che poi la percezione esterna è che era come il segretario del partito, io in realtà non contavo un cazzo, cioè non ero la rappresentante legale, il rappresentante legale era Grillini, quindi alla fine contavo il che contavo. All'esterno non sempre veniva percepito correttamente, comunque a prescindere dalla carica, cioè l'Arcigay era semplicemente l'associazione, a quel punto era diventata dei gay e delle lesbiche, Eh beh, anche se rimaneva l'Arcigay, certo, avendo... era uscito, cioè per quanto riguarda l'Arcigay uscì da questa, anche perché poi formare la segreteria nazionale fu importante, perché a quel punto si scelse chi entrava in segreteria nazionale fra le lesbiche. Non è che fossero, cioè fu presentata al congresso o non so se dopo la direzione nazionale, però sulla base di quello statuto, a quel punto il congresso o la direzione nazionale aveva un compito di ratifica. Era poi il presidente della Repubblica che ratifica la legge, però la legge la fa il Parlamento, quindi le nomine, le cariche delle lesbiche dentro l'associazione, che era generale l'associazione, quindi la segreteria nazionale dell'Arcigay tutta, le lesbiche lì venivano individuate dall'assemblea, quello cazzo che fosse dell'Arcigay donna. E poi semmai l'organismo comune ratificava questa cosa. E anche quello fu impegnativo, perché sai, cioè non è che ci fosse tutta questa gente sul mercato, anche perché non è che puoi pigliare una a cazzo così e metti poi, ma non lo sai dove vai a parare, poi la devi anche gestire questa cosa. E quindi mi ricordo, guarda, nella prima segreteria nazionale, secondo me sicuramente entrò la Mirella Sandonnini e la Nina, poi due di Bologna. Perché per fare la segreteria nazionale io non ero in grado lì per lì di fare una proposta, che c'era ancora, l'ultima riunione era stata quella di Verona, quindi si dovette organizzare un altro, un convegno, qualcosa del genere, che si fece a Empoli, Bene. dove fra le varie cose che si fecero, mi ricordo, mi inventai dei giochi di ruolo, una roba tutta, boh, vabbè. Fra le varie cose però volevo anche l'elenco di chi sarebbe entrato in segreteria nazionale, così si fece, furono individuati in quel convegno dell'Arcigay donna di Empoli, che lì furono, chi era Flavio Arditi che ci trovò lo spazio, Penso mi sì. ricordo uno spazio bellissimo, non so dove fosse, mi ricordo questo cortile, molto bello, non so cosa ci sia Empoli. Sarà stata la biblioteca, sarà Dove? stata la cosa quella centrale, chissà. Sì, era in centro. Anche quello si trova. Chiostro dei. Ma non, insomma, quella cosa. Sì, lì. Una specie di chiostro molto sì, bello. Specie lì. E questo, secondo me, quello si può anche trovare, perché quello c'ho ancora il fascicolino che feci. Perché io dopo tutto questo ho sempre avuto la mania dei librini. Cioè, di ogni cosa facevo un librino. Cioè, perché già allora cominciai questi cazzo di librini, mi ricordo che ce l'ho ancora, c'è ancora in giro. E lì è utile perché io credo che ce ne sia anche una copia al Cassero, ma una anche ce l'ho, perché c'è il progetto Arcigay Donna. Poi una breve rassegna stampa, perché dovevo stare anche attenta, perché... c'era una copia anch'io, me l'hai data te. Ecco, perché c'era parecchio materiale nel frattempo, in quei due mesi, però c'ero sempre io. Quindi rischiavo di fare un librino che fosse una specie di mostra su di me. E quindi andare a cercare di spulciare se c'era qualcosa che aveva detto qualcun'altra, di non mettere tipo epoca, non credo che la misi lì, oppure la misi, ma perché no, c'è tutta roba sulla Arcigay Donna. Sì, cioè, non hai messo roba su di te, cioè dove erano interviste magari su di me eccetera, dovevo anche starci attenta, perché questo congresso fece parlare non solo il fatto che poi sono finita sui giornali generalisti eccetera, ma soprattutto tutto il mondo del lesbismo separatista si incazzò con me, perché mi ricordo bene che anche quella ora sarà andata persa per l'Espresso, e poi lì disse no, guarda, importante che ti ha intervistata lei, uno importante, io sapevo manco che cazzo fosse, venne tale Marisa Rusconi, che poi capì essere una, una critica letteraria, fra l'altro una all'epoca famosa di alta borghesia, eccetera, che aveva le sue rubriche sull'Espresso, e vabbè, io mi feci un'intervista, quelle che dopo ho evitato di mettere, ma poi intervistò anche quelle del clip. E mi ricordano sempre che quello che dissero fu che sì, loro queste cose le sanno, e che i fiori all'occhiello appassiscono presto. Questo fu il commento delle separatiste. Io della Fiocchetto, credo. Sì, forse la Fiocchetto. Io rispetto a questo penso che non feci nessuna dichiarazione, feci finta di non aver neanche visto, e tirai innanzi, perché capivo che avevano anche ragione. C'è un carteggio tra te e loro sul bollettino del CLI. C'è un carteggio, non con lei, con un'altra dopo però, che riborda sempre su questo, e io un conto è rispondere a una cosa sull'Espresso, che significa poi andare per quei mezzi, proprio non mi interessava, ma siccome questa scrisse una lettera aperta, qualcosa del genere, mi ricordo bene che disse, ma c'è anche in rete, credo, cioè mi sentì in dovere di rispondere, perché sul bollettino del CLI, cioè lì ci metto la mia faccia, di farle polemica all'esterno. Anche il bollettino del CLI, lo dico perché la Francesca magari lo sa meno, appunto il CLI era Collegamento Lesbia Romane, un'associazione era nata nell'81 a Roma, avevano fatto lesbie italiane, e aveva fatto questo bollettino dall'inizio, era nato facendo un bollettino che in qualche modo non era un progetto così lontano da quello della Graziella, anche se la Graziella non lo sapeva, perché si chiamavano proprio Collegamento, sì, per dare strumenti alle lesbie di trovarsi, e questo bollettino, che ti poteva anche arrivare a casa in busta chiusa, senza il mittente, eccetera, lo ricevevano tante lesbie, anche chi riusciva a sapere che c'era, magari abitava a Cantù, ma gli arrivava questo. Era l'unica cosa che avevano. E era uno strumento, oggi sarebbe un blog, perché di fatto era aperto, se te gli scrivevi una cosa, loro la pubblicavano. Era tipo fanzine, come... Sì, era fatta a mano, tipo fanzine. C'erano degli articoli che facevano loro, c'erano, per esempio, facevano anche una cosa culturale, nel senso che c'erano tante traduzioni di articoli, non c'è un cazzo in quegli anni in italiano. E però qualunque cosa gli arrivasse da lesbiche loro la pubblicavano, quindi c'era anche un po' di dibattito, un po' di... Io credo sia l'unica volta in cui ho risposto a loro, ho sempre cercato di non entrarci in polemica, perché capivo che avrei fatto il gioco dei nemici di tutte alla fine, a entrarci in polemica, io non avevo fatto niente contro di loro, non pensavo che loro sbagliassero, pensavo solo che facessero cose diverse modalità diverse, ma entrambe rispettabili, che era quello che era capito agli allora. Però su questo ti volevo fare una domanda io, perché è vero, te sei sempre stata così, nel senso sia vista dall'esterno quando non ti conoscevo, sia andando a rivedere i documenti addirittura di periodi in cui io non c'ero, sia anche t'ho visto. Però ho avuto l'impressione invece che altre del primo Arcigay Donna, più giovani di te, avessero invece un atteggiamento piuttosto conflittuale con le separatiste, nel senso che si reputavano un altro, cioè ecco, come dire, gli anni 90 sono stati caratterizzati, soprattutto la prima metà, da due soggettività, le lesbiche separatiste e le lesbiche che si definiscono di fatto per negazione, cioè non separatiste. E noi a Firenze non ce l'avevamo questa contrapposizione, perché la Mandor, la capeggiata dalla Borghi, era molto aperta. Sì. Molte di noi erano passate di lì quando il circolo non era ancora nato, quindi noi a Firenze abbiamo avuto anche sempre la fortuna di prendere quello che volevamo dal separatismo, anche in termini culturali, d'approfondimento, senza conflittualità. La conflittualità tra noi non c'è mai stata. Ma il resto mi sembrava invece che no, ci sono due soggettività che si distinguono su una cosa, ognuna delle due pensa di avere ragione. Certo. Sostanzialmente, che ne so, una cosa e poi forse ci può raccontare perché siamo in quel periodo, poco dopo, per esempio alla prima settimana lesbica, che a differenza delle settimane successive era una cosa separatista, organizzata dai gruppi separatisti in Italia, alcune Arcigay Donna sono entrate in conflitto. Io ci andai apposta. Per fare cosa apposta? Perché era una, non mi ricordo che anno potesse essere. Era il 91. Sì, il 91. Questo te lo dirò, lo so perché. E tra l'altro il conflitto fu, allora, distinguiamo, un conto è l'Arcigay Donna, un conto è una galassia che non era Arcigay Donna o che più o meno si poneva accanto ma non proprio. In particolare, grossissima conflittualità creò la Rosaria Iardino. E difatti la prima settimana lesbica io andai apposta perché la Rosaria Iardino era una che era partita, è stata nel Mieli per parecchio tempo, lei divenne a fama e a grossa visibilità a partire dal 91 perché lei era sieropositiva, era ancora quando di AIDS si moriva, quindi, e lei su questo va riconosciuto, ebbe il coraggio di dichiararlo e contemporaneamente anche di dichiararsi di essere lesbica. Però il problema era, lei era più giovane di me, ma metti non di 10 anni, poteva avere 7-8 anni meno di me. Però è ancora il segretario nazionale della Lega, Rosaria Iardino. Sì, sì, è sempre, ha vissuto di quello poi tutta la vita. Ah, ma è rimasta, cioè gli è andata anche bene, è rimasta sera positiva. Sì, sì, cioè è riuscita ad arrivare al 95, poi con le nuove cure, addirittura ha fatto un figliolo, credo. Perché poi si è negativizzata, quindi se l'è cavata. Però in quel frangente, cioè lei era visibile come lesbica e tra l'altro anche mediaticamente spendibile come lesbica. Fisicamente, cioè non faceva nulla per, non so, a differenza di tutte le altre, non aveva timore a dichiararsi e le piaceva molto andare sulla stampa, tra l'altro. E quindi lei tentò in qualche maniera, a partire da Mieli, ad arrivare all'Arcigay Donna. Io mi resi conto che questa proprio non ci voleva l'Arcigay Donna, era un'altra storia, non ce la volevo. E quindi col mio sistema feci in modo che non ci arrivasse mai, perché uno come Franco poteva anche tenersela, perché avrebbe trovato, perché a volte su certe cose mi impuntavo e lui doveva cedere su certe cose. La Rosaria Iardino non fregava un cazzo di queste cose. Alla Rosaria Iardino non interessava solo di avere un ruolo per sé dove era pagata, perché non aveva lavoro, stava male, cioè, quindi io posso anche capirlo umanamente, ma cioè che ora non si possa andare avanti con un progetto politico a tutto tondo, perché bisogna essere buoni con una che rischia di affossare tutto un progetto, non mi pareva corretto. Lei riuscì a tirarsi dietro alcune di Bologna, Antonella e quell'altra con una storia per cui si mise assieme a questa, eccetera. Quindi io mi trovai una fronda interna che emerse abbastanza durante la adesso subito dopo la conferenza. Ma avevano già un nome nella prima settimana lesbica, si chiamavano coordinamento lesbiche AIDS, l'ho appena riletto. Lo so perché io ho parlato con quella che ti ha fatto l'intervista, esatto, la che mi ha chiamato 2 settimane fa. Vabbè, comunque a Bologna lei, Danieli, si trasferì a Bologna o vatte la pesca, perché queste le conobbe alla conferenza mondiale dell'AIDS a Firenze, che fu un eventone. E ci andammo anche noi, tra l'altro anche, secondo me, con una grossa visibilità, perché noi ci su questo la Nina pensi fu utile, perché lei conosceva, cioè sull'AIDS lei fu... Nina Pesci, parentesi, stava a Milano in questo Blu di Mitilene dei Risciarci Gay Donna. Nel frattempo la Nina si mette con la Mirella Sandonnini di Firenze, fidanzata della Mara, che lascia la Mara per la Mirella, per la Nina. La Nina viene a stare a Firenze e ci vive tuttora, credo. Sì. Sta nel circolo fino al 98. La Mirella, tra l'altro, lavorava in Svizzera in quel periodo su dei progetti sull'AIDS. Quindi... cioè io contavo di più su di loro. Ma la Nina era americana, veniva da California. Però in quel momento fu utile, perché sulle AIDS le lesbiche si erano già mobilitate, sia acquisendo anche un ruolo di cura in alcuni momenti, stringendo comunità e in qualche maniera anche affrontando quindi il loro rischio. Mm-hmm. Quindi fu utile, e noi si andò a questa conferenza mondiale dove c'era in quel momento molto visibile sia negli Stati Uniti ma anche in Europa. In Francia, ACT UP, quindi ACT UP era il nostro mito. Cioè ACT UP era un'associazione di attivisti gay e lesbiche, c'era anche lesbiche, contro l'AIDS, ma molto movimentisti, quindi gente che faceva la manifestazione pubblica, quelle cose che dopo abbiamo portato avanti. I rivoltaggi, gli assalti. Sì. Ma mi sa che sì, ho visto un documentario. C'è un film, secondo me molto bello, anche se Daniel dice è terribile, che si intitola 120 battiti, che racconta ACT UP Francia. Allora è visto quello, sì. Daniel, per esempio, quando stava in Francia, era giovanissimo, era un attivista di ACT UP, e per raccontare chi era ACT UP, Daniel, da giovanissimo, è stato, ora è una parentesi, non c'entro un cazzo, ma insomma, lui aveva fatto la scuola di teatro, insomma, e lo presero, ma era un ragazzino bello e febico, ma non era ancora maggiorenne, gli fecero il contratto postdatato perché non aveva ancora fatto 18 anni. L'uomo immagine della prima collana di profumi, credo di Yves Saint Laurent. Quindi la sua faccia era spammata su giornali tipo Vogue, pareti intere a Parigi, eccetera. Gli dettero una fraccata di soldi che lui, essendo un diciottenne solo al mondo, si è sperperato in pochissimo tempo, e il suo lavoro di modello è finito perché lui faceva parte da TAP, fra l'altro stava con Cyril Collard, che era un regista poi morto da AIDS, che ha scritto, fatto un film famoso sull'AIDS che era Le Notti Selvagge. E quando Wojtyla andò a Parigi, ACT UP fece una grandissima campagna contro Wojtyla, con la faccia di Daniel rifatto nella stessa maniera in cui lui aveva fatto la campagna per Yves Saint Laurent, con scritto tipo ucciso dal Papa, il Papa mi uccide, una roba del genere. Quindi la carriera di Daniel finita lì. E poi si è ritrovato anni dopo a occupare Piazza San Pietro. Però ecco, ACT UP faceva queste cose. Sì, sì, sì, sì. La quindi, maggioranza poi erano sieropositivi, per cui giocavano tutto per tutto. Certo. Sì, cioè in realtà secondo me non è stato un caso che noi si conobbe questa cosa a questo congresso a Firenze. Perché quando c'erano le conferenze mondiali sull'AIDS, alle conferenze mondiali ci andavano gli stati, le case farmaceutiche, sì, gli scienziati, ma poi c'era sempre il controvertice fatto da movimenti. Certo. E comunque i movimenti chiedevano anche di farne parte, quindi era un po' questa cosa. E mi ricordo che noi eravamo nate da poco, come era 91, quindi da un anno e mezzo come Arci Gay Donna, quindi era anche una fase in crescita ancora, ci sarà dal 10 o 15, ho trovato qualche foto di allora, c'è la Laura Rastrelli, quella alta com'era la... Quella danese, la cristiana. Tutte tante erano fiorentine perché era a Firenze. Sì, esatto, e poi venne appunto la Mirella, la Nina, quelle due di Bologna, che erano in segreteria nazionale, e la Rosaria Iardino ci venne come Mario Mieli, ma era la Siero Positiva. E quindi lei riuscì a fare l'intervento, lei fece l'intervento per le donne sieropositive, che fu una grande cosa, quindi noi tutti a sostenere la Rosaria Iardino, e la Nina, che veniva da Los Angeles, quindi aveva più pratica di organizzare già queste cose, con un act up... O che almeno ce l'ha sempre raccontata, non è che lo dice. Sì, però secondo me l'aveva, perché quella l'organizzò lei, si andò a contestare il congresso riuscendo ad entrare in 7-8, fra cui quella pazza degli occhiali. Sì. Mamma, che c'è? La Paola, aiutami. No, quella che stava con la Paola Presciuttini. Ah, la Paola, quella che faceva le cose nei campi rom? No. Sì, la Paola Cecchi. La Paola Cecchi. Ma Cecchi, c'ero anch'io. È pazzissima la Paola Cecchi, quindi sì. Anche lei si riuscì a infilarsi dentro proprio quando parlava Liz Taylor e si fece una cartellonata con Liz Taylor che ci fece fare la cartellonata. Purtroppo non si finì su nessun cazzo di giornali in Italia perché c'era sciopero dei giornali e quindi no, non c'erano. Però vabbè, ci si divertì in qualche maniera. La Rosaria Iardino cercava lavoro sostanzialmente, lei poi divenne molto famosa in Italia perché fu quella che aiuti baciò per dimostrare che lei di essere non Maurizio Stanzo Show. Sì. Per dimostrare che con un bacio non si sente valore. Quindi ebbe molta visibilità, ma andava anche bene. È che la Rosaria Iardino aveva pensato bene, secondo lei, di farsi pagare l'Arcigay, perché l'Arcigay peraltro aveva soldi sull'AIDS. E io lì entro in conflitto con la Rosaria Iardino, con lei che, ecco, lei sì, con le separatiste era chiuso ogni tipo di rapporto. Era quel gruppo che, quindi non erano le lesbiche varie, perché tutto sommato anche a Milano, che c'avevano i separatisti a Milano, la libreria delle donne, avevano anche ragione. Cioè a Milano c'era, vabbè, che a me non sta tanto... C'era il CDM. Sì, però non sono mai stati in conflitto. Cioè c'era la Sara Saietti, vabbè, che poi ha fatto l'Unione Civile, ma poi c'era la Sara Saietti, secondo me era una che confliggeva con le separatiste. Forse sì, però c'era anche la Mariella Lomanto. Sì, però lo capisci anche perché poi si sta parlando di una nuova generazione, la Sara Saietti magari aveva 25 anni, cioè... Sì, cioè, vabbè, io non l'ho mai visto, cioè un problema grosso per me, da quello che facevo io, fu la Rosaria Iardino, perché era l'unica altra visibile, quindi io dovetti far fronte a non togliere quel tipo di visibilità, cioè che io duravo fatica a dire la lesbica può essere felice, papà. Un posto di la lesbica può essere felice se ero positiva, cioè tu mi stai a fare un altro lavoro, io ti posso sostenere, e quindi a me non cioè l'ultima cosa che avrei voluto era una Rosaria Iardino che a differenza di me si sarebbe fatto pagare, certo, a prendere il mio posto nell'Arcigay Donna, e lei a quello mirò per un breve periodo, tirandosi dietro i bolognesi. Lì io, buona, ma cioè come sempre quando poi una cosa mi rendo conto, cioè mi ci scontrai, tanto che lo scontro fu palese quando uscì la possibilità di fare, anzi anche la necessità di fare un'indagine pagata, cioè finanziata, fare la richiesta dall'Istituto Superiore di Sanità sulla trasmissione dell'AIDS tra le lesbiche. Ovviamente la Rosaria Iardino sapeva tutto lei, cercò di farlo lei come Arcigay Donna. Grillini, metti, l'avrebbe anche un po', perché era più facile finanziare la Rosaria Iardino che andava sulla stampa su quello, certo, che andava con aiuti eccetera, che non me, che non ero nessuna da quel punto di vista, e che anzi facevo la lesbica felice, non la lesbica sieropositiva. Ma se noi vogliamo fare seriamente questo lavoro, non lo possiamo fare per fare la figura, cioè meglio che ci finanzino meno. E quindi io di fronte a questo dissi, io lo preparo io il progetto, me ne occupo io, lo facciamo noi. Se la Rosaria Iardino lo vuol fare, si trovi qualcun altro, lo presenta lei. Su questo mi imposi, misi assieme comunque la Mirella, perché la Mirella sull'AIDS aveva lavorato, accattai il Bigagli, perfino mi ricordo, e accattai una del gruppo C di Verona, che era il primo che aveva fatto i prelievi in anonimato, una dottoressa, tale Susanna Morgante, che era una carina, che lei investì anche la sua reputazione, lei comunque era una dirigente medica di lì, per farlo con noi. E alla fine finanziarono tutti e due, probabilmente dimezzarono il finanziamento, e obiettivamente uscirono risultati totalmente diversi. Perché mentre quello che avevamo fatto noi, i questionari, furono distribuiti nei circoli, quindi arrivando a livello nazionale fra lesbiche, sì, più politicizzate di altre sicuramente, ma non particolarmente connotate da storia di AIDS, delle lesbiche qualsiasi, il giro della Rosaria Iardino, che dopo non ha mai detto ufficialmente, ma che comunque si era infettata in quanto tossicodipendente, il giro suo era tutto di ex tossicodipendenti, la maggioranza. Quindi nel suo progetto emerse 20-30% di lesbiche sieropositive, quasi tutti infettate tramite siringa. Nel nostro emersero 2% di lesbiche sieropositive, di cui metà infettatesi tramite siringa, le altre metà tramite rapporti eterosessuali, che regolarmente venivano vissuti come punitivi. Quindi una magari aveva un rapporto eterosessuale per punirsi, per dire vado con quest'uomo, ovviamente fatto così senza nessuna protezione, perché era casuale, un rapporto così del cazzo, ed era quello il vero rischio. Cioè, nel rapporto fra due donne non c'era un caso, per cui noi a quel punto si frenò anche, almeno io cercai di far frenare tutta la campagna, perché lo trovavo anche un po' eccessivo, tutta la campagna di prevenzione del dental dam, di queste cose, eccetera, perché... Sì, anche noi a Firenze non si presero mai. Mentre a Bologna fu dove andarono avanti molto di più su questa cosa. Mi ricordo si presentò nel congresso convegno a Firenze, quello che dicevi prima, anche le lesbiche nel loro piccolo si incazzano, i risultati, e si discusse molto appunto dei rapporti occasionali con i maschi, che potevano essere autopunitivi o non autopunitivi, ma magari era perché una sera ti andava così, non ci avevi mai pensato prima e andavi... E quindi, al fine le lesbiche rischiavano esattamente attraverso le stesse modalità in cui rischiavano tutte le donne, no? Cioè, e lì, secondo me, questa cosa ci fece uscire anche da una potenziale conflittualità con le separatiste, che anche giustamente dissero, ma ora... Cos'è questa cosa? Perché i gay si occupano di questo e hanno la campagna del preservativo, anche noi dobbiamo fare la campagna, che anche noi dobbiamo usare il preservativo solo per questo? E quindi la prima settimana lesbica fu proprio nel 91, nello snodo di questo, e io non avevo intenzione di andarci perché temevo potesse essere anche vissuto un po' come... Nessuno mi aveva invitata, ma certo quelle cose ci vai tu, ma... per la visibilità che avevo, per come si ponevano, eccetera. Mi ricordo lo dissi anche alla Borghi, cioè io non intendevo andarci, che avrebbe potuto essere visto come una forma che io andavo a raccattare aderenti alla Lega di Donna, cioè per come loro mi avevano immaginata, per come loro pensavano che io fossi. Io sono convinta, la prima cosa che avrebbero pensato è che io ero andata a far proselite. E quindi pensavo, io proprio non ci vado. Ci andò la Rosaria Iardino, però. Cioè, a quanto io ho un ricordo vago, perché io manco c'ero, perché mi chiamò qualcuna, forse la Borghi, non lo so, non me ne ricordo. Cioè, creando un potenziale conflitto proprio su questo. Cioè, le non separatiste, e quindi l'arcigay donna per estensione, a queste posizioni, e ci dà a noi gente incosciente che si va ad ammalare, cioè pensai chissà cazzo avrà detto la Rosaria Iardino, non lo so, e a quel punto pensai ci devo andare, e così ci andai, feci il mio intervento. All'assemblea conclusiva? No, non avessimi la conclusiva, andai, chiesi, guardai un po' il programma, vedi che era una cosa un po' varia, non mi ricordo, credo che mi sono fatta anticipare dalla Borghi, mi ricordo che parlai con l'Aulieri, che era meglio della Fiocchetto comunque, che vabbè, mi ricordo, mi dette un libro, eccetera, quindi già non entrai in conflitto, credo che ci andai anche da sola, proprio senza nessuno, perché non volevo andare a fare il gruppone, eccetera, pensai che era giusto. Mi ricordo che chiesi la parola, mi dettero la parola, non ci fu l'ovazione, però cambiai totalmente registro, mugugnarono un po' perché certo non gli stavo simpatica, però specificai che la posizione, quella lì, non era la posizione della Cegaidonna. Tutto lì, che avevo il massimo rispetto del lavoro che loro avevano sempre fatto, che facevamo cose diverse, che in futuro magari troveremo modo di collaborare, un po' democristiana, ecco. Credo che però lì servì molto, perché lì basta. Dopo, poi ci fu magari quello scambio su... che poi c'è anche sulla bollettina del clip, perché ancora una volta è sempre sto fiore all'occhiello, cambiò totalmente, secondo me, con la trasmissione di Gad Lerner. Lì mi in qualche maniera, un po' qua, un po' là, fui riammessa col sesso delle lesbiche. Non so se tu ci fossi già, secondo me no, perché è del 92. Quindi, cioè io a un certo punto mi sono trovata dal 90 in poi, a fare questa vita che non aveva più nulla a che vedere con quella di prima, che non era più vado quella volta tanto alla trasmissione di quello e poi magari organizzo una cosa coi tempi miei dove voglio io. No, a quel punto mi accorgevo che stava diventando tutto più grande di me, che aveva funzionato talmente bene questa cosa che rischiavo di perdermi. Io ero terrorizzata all'idea di perdere il contatto con la realtà. E la cosa che proprio pensavo tante volte era quando da Verona partivo, magari andavo a Roma, a Napoli, partivo in tanti posti, a Catania, a Palermo, c'era un po' girata l'Italia, perché fra l'altro Grillini aveva definito, me andava bene, che dei circoli mi occupavo io. Occuparsi dei circoli significava farsi un gran culo andare nei posti. E io questo lo feci, e per me è stata una grande ricchezza, mi ha permesso davvero di conoscere l'Italia, perché tu non conosci solo il circolo, conosci le persone, conosci il posto, capisci che l'Italia è un paese. Per esempio a me una cosa che mi ha dato tanto, andando in momenti diversi sia a Messina che a Catania che a Palermo, di conoscere la Sicilia e di vedere come la Sicilia è un grande paese. Sicilia è un continente quasi, e io ero quella che veniva dal continente, ma in realtà, e quindi i siciliani sono così, tu vieni dal continente, ti fanno i tappeti rossi, perché in qualche maniera riconoscono che tu li consideri. Lì non c'era mai andato in Sicilia, cioè, ma è un esempio, non solo lì, andai a fare, mi ricordo un incontro assurdo, da una tipa che era matta, mi chiuse in camera, questo temevo mi volesse violentare, ad Ascoli Piceno, che voleva fare una cosa, fece poi anche una festa assurda, mi trovai, non partì il circolo di Ascoli Piceno, ma altri partivano circoli, che magari tu andavi e li portavi, c'erano quelle 3-4 che venivano incuriosite, dicevano, no ma guarda, allora il tal giorno c'è una riunione nazionale a Bologna, magari venite, magari raccattate i soldi, magari vi rimborsiamo qualcosina. Cioè, per dire, nacque anche un circolo ad Aosta, dove dopo sarebbe arrivato Mancuso anni dopo. Ma la prima volta ad Aosta ci andai io e mi feci presentare ad Aosta da una tipa, non mi ricordo il nome, mi sembra Maria Pia qualcosa, era una che aveva scritto un libro per la casa editrice, quella dell'Arcidonna, perché anche lì poi c'è stata la storia con quella dell'Arcidonna, di cui io mi invaghio a un certo punto della presidente. Infatti, Graziella, io non so se vuoi farla adesso o vuoi fare una pausa, perché ora secondo me siamo molto sul piano politico, mi piacerebbe anche questi anni rivedere appunto tutta questa parte di come stavi te, le sue relazioni, quindi entrare Facciamo. un po' più su altri Sì, perché piani. ora qua faccio fatica a questo periodo, mentre fino ad ora. Beh, un po' tutto Scusa, insieme allora in posso questo farti periodo. un po' di domande Sì. su Vuoi, generali? vuoi farlo ora o Facciamo vuoi. una sostina? Facciamo No, una sostina le di qualche domande. Ah, sentiamo le domande della Cioè. Francesca prima. No, Sì, però si possono fare anche dopo. Ora era per. perché così abbiamo finito Allora, no, tempo. la prima domanda è questa. Quindi, tanto per. Cioè. Tornando indietro, quindi Grillini alla fine, cioè tu da quello che ho capito, lui ti, diciamo così, sostiene questa operazione Sì. perché in qualche modo ne vedeva, probabilmente la sua figura era in quel momento, diciamo. Aveva bisogno di un rilancio probabilmente, cioè, Di un di cambio. un cambio, cioè lui vede in questa operazione, quindi faccio entrare la Graziella con questo ruolo così rilevato E le e le donne, donne chiaramente perché attraverso la lui ha puntato Graziella, quando ha visto che io trovavo delle donne che esatto, venivano, perché prima. Cioè, era una dice, nuova proposta politica. esatto, cioè lui dice questa cosa mi può servire per rilanciare questa associazione che Per è. dare una lettura diversa dell'AIDS sui comportamenti anziché sull'identità, per fare un po' fuori il vecchiume, Ecco, questo per fare anche un arcigay più presentabile in qualche modo. ok. Questo quindi mi è chiaro. E infatti riesce questa Sì. operazione. E quindi lui ti dà carta bianca all'inizio, diciamo quando è. Però Sulle donne sempre me l'ha data, diciamo, tu hai sulle in questi lesbiche. anni, almeno ora poi le cose si saranno fatte più complicate poi nel corso degli anni. Ci saranno stati conflitti o problematiche come quella che hai descritto nella Iardino, però all'inizio, diciamo, nella prima fase, invece, come è stato entrare dentro questa associazione in cui c'era diverso vecchiume, invece, immagino, cioè, come dire, Guarda, come è andata lì il l'inizio? vecchiume già con me aveva avuto dei problemi e io proprio lo individuo in quella già arrivata quando dicevo il Congresso Nazionale dell'Arci di Ok. Perugia. Lì il vecchiume, cioè quelli che comunque erano quelli di questi circoli, eccetera, quelli che Grillini voleva un po' svecchiare, con me si erano già misurati lì e avevano perso. Ok. Quindi. Ha cercato di convivere, cioè dovevano convivere con me. In compenso, quelli più giovani che arrivavano preferivano me a Grillini, anche se erano gay. Cioè, un caso è quello di Firenze, perché comunque anche lui era vecchio. Cioè, lui voleva svecchiare l'associazione, ma lui faceva parte. Certo, sì. Probabilmente era più politicamente più intelligente, ma Sì, faceva parte anche di lui, quella. cioè quello che ha accomunato sempre me e Grillini. Per cui su certe cose ci capivamo, era che anche lui lavorava politicamente per strategie. Okay. Cioè, ed è un modo di lavoro politico che lui chiamava pragmatismo. Io ora, col sapere del poi, lo chiamo strategia perché io avevo meno consapevolezza. Soprattutto io non avevo una motivazione di mestierarmi politicamente. Io Sì, non no, volevo questo mettermi in chiaro. politica, No, volevo no. fare una cosa. Allora, sicuramente, quindi, da come tu quello che tu racconti, hai detto anche poi riallacciandomi anche le cose, poi dopo ci fermiamo. Te, giustamente, ti sei invece una delle differenze è stata proprio questa, che te sempre in questi anni hai avuto chiaro, io non voglio fare come loro, cioè non ci voglio campare di questa cosa, io mi tengo il mio lavoro. Sì. E questo con tutto quello che poi anche a Mi ha livello insistito tantissimo con me. personale deve essere stato noiosissimo. Però l'altra cosa che mi viene in mente è che quindi in questi anni, cioè da questo 89 fino a poi quando tu, 89-90, eccetera, cioè in realtà questa tua operazione, l'impressione che ora sentendo anche l'Elena, è che diciamo contribuisce a una grande crescita anche quantitativa di questo, cioè come dire, questa cosa che te fai, credo probabilmente si colloca in un momento di cambiamento, però dall'altra parte anche contribuisce a portare un sacco di gente a questa associazione. Sì. Questa è la sensazione, cioè come se si fosse aperto qualcosa di grosso, perché... Sai, questo non posso dirlo io, sono la persona meno in grado di dirlo, perché io l'ho vissuto da dentro, posso vederlo, magari riconoscerlo, perché sono passati 30 anni, quindi anche quasi 40, un po'. Quindi a distanza di tempo, se devo dire, ma perché si è visto dopo? Io lì non avevo percezione. Quello che si apriva non era solo il campo delle donne, delle periferie. E su questo io poi, per questo poi mi sono sempre riconosciuta quando dopo ho letto qualcosa in più nei margini. Cioè la mia, io ero quella dei margini e volevo restare quella dei margini, e volevo, perché dai margini vedi bene il centro, dal centro... E il mio terrore era sempre quello che mi buttavano nel centro, ora mi confondo, ora non vedo più i margini. E quindi da un lato questo, le periferie, quindi le lesbiche di periferia potevano riconoscersi in quella realtà, ma soprattutto forse quello che ha cambiato, che ha segnato di più, la generazione dopo. Io parlavo all'età vostra, Grillini no, io parlavo all'età vostra, perché io non avevo quel passato politico di chi era dentro la politica degli anni Ottanta. Io dalla politica me ne ero andata al 77, poi avevo fatto delle cose, vero, ho fatto la radio, eccetera, ma l'avevo fatta dal margine. Io me lo ricordo quando io mi rendevo conto, prima di far politica nel 78, quando andavo ai volantini, e ci sono andata 2 anni, mi sono mantenuta andando ai volantini, che pensavo, questo è il precariato di cui parlano gli autonomi, di cui mi parlavano gli autonomi a Padova, io lo sto vivendo, ma questo sarà il futuro della gente. Quindi io quando poi parlavo, mi ricordo, quando mi riprendevano anche sui giornali, io avevo un linguaggio che era spendibile anche da questo punto di vista, che ora mi fa sorridere perché ero anche di un'ingenuità, ma che però funzionava. Certo. Mi ricordo un'intervista che finì il giorno in cui fui eletta segretaria nazionale della CGIL, secondo me sull'Unità, perché l'Unità mi ha detto parecchio spazio. Sì, non c'è dubbio. No, non tutti i giornali, il Manifesto no, non gli ci piacevo io il Manifesto, l'Unità sì. Ma perché c'era questo Jenner Midletti, mi pare si chiamasse, di Bologna, che lui era sempre lì, quindi mi ha conosciuta, e mi ricordo che mi ero lanciata in questo discorso di cui lui fece il titolo, dove diceva, ma ora come ti senti ad essere con tutti questi gay, a essere al vertice di questa associazione? E gli fece tutto un discorso sparpagliato sul capo indiano, perché in mente che avevo letto un racconto di De Angulo del capo indiano, dove gli indiani sceglievano i capi con i bastoncini, cioè chi aveva, era più fortunato al gioco lo facevano capo, perché così la tribù sarebbe stata fortunata. E io ho detto, io voglio essere come i capi indiani, io penso di essere una persona fortunata, se no non sarei arrivata qua. Quindi io cosa posso portare a questa associazione? Come i capi indiani io cercherò di vivere come ho vissuto fino ad ora e di portare la fortuna che ho avuto io come i capi indiani, quindi il titolo, quindi sarò come un capo indiano. Ecco, avevo capito queste mie teorie del cazzo. Ovviamente, io dico del cazzo, però Grillino non l'avrei mai detto però una cosa così. A uno di 20 anni, piace di più una che dice una castroneria così, che non uno tutto... io è vero che poi curavo, paradossalmente, anche il mio modo di vestire, ma non lo curavo per essere uguale alla maggior parte delle donne, come Grillini faceva per essere la maggior parte degli uomini. Anzi, io cercavo di caratterizzarlo in maniera positiva e paradossalmente anticipando delle mode che dopo io mi vestivo nel 90, come dopo si vestiva quelle nel 2000. Perché, ma... capito, cioè, non era perché... O tu vedevi la nerina che sembrava il babbo, e quindi vestita maschile eccetera, oppure vedevi quella col gonnellino, vedevi la come si chiama, la Piera di Brescia, no, che proprio la signora eccetera, e trovare una giusta sintesi non è che fosse proprio facile, bisognava fare come il capo indiano, cioè buttare i cosini e vedere cosa salta fuori, pigliare un po' qua un po' là e mettere insieme una cosa che non fosse quello, ma potesse essere compresa da entrambe. Questa era la mia scommessa. Cioè, di trovare un linguaggio che però era un linguaggio che non era le parole basta, era anche l'abito, era anche tutto. Per cui alla fine mi ritrovai, era anche il progetto Arce Gay Donna, insieme di tutto questo. Per cui alla fine ho fatto un gran minestrone che però secondo me ha avuto il pregio di non voler mai entrare in conflitto con nessuno, perché sono riuscita a non entrare in conflitto forte con nessuno, neanche con l'Aiardino, perché alla fine io non ci litigai con l'Aiardino, mai. Non ho mai litigato brutalmente in quegli anni con qualcuno da dire non ci salutiamo più. Alla fine io tenevo dentro tutto e se proprio buttavo fuori qualcosa, ma facevo in modo che fosse loro ad andarsene, perché l'Aiardino se doveva fare il progetto con me non lo voleva fare, voleva che io mi facessi più in là per farlo lei. Quindi ho detto no, però guarda, se tu lo fai io sono d'accordo. E quindi lo si fece tutte e due. Per cui questa roba, secondo me, riusciva comunque a comunicare la vitalità di un'associazione alla generazione che veniva dopo. E caso volle che il 90 fu anche l'anno della Pantera. E quindi a Certo. quella generazione io parlavo con più facilità. Se doveva venire a Bologna, era più facile rapportarsi con me che non con Grillini, che li metteva in fila come i Sì, soldatini. mi è Al sempre limite sembrato un io. contabile a vederlo. Mi è Senti. sempre sembrato un contabile a Cioè vederlo. io sarò C'è sembrata un'altra una che beveva. domanda? Ancora un'altra C'è domanda una semplice. domanda. Scusami, Graziella, quindi per capirsi, per capirsi, cioè, quando tu hai iniziato fatto il progettino famoso, no? Allora, lì, cioè, come funziona il cambiamento di nome da Arcigay a Arcigay Donna? Cosa c'era scritto nella tessera? Cioè, Non ci fu come mai un funziona? cambiamento. Non ci fu Non mai. c'è, cioè Arcigay Donna è un nome che Non compare mai non da più diventa comparti. statutario, era Diventa mezzo statutario per il Circolo di Firenze, perché il statutario. Circolo di Firenze, avendo le lettere fin dall'inizio, appena uscì fuori questo nome ce l'aggiunse. Ok, ma a Ma livello nell'associazione nazionale nazionale mai. no. L'associazione nazionale passa da Arcigay, Arcigay Arcilesbica nel 94. Nel 94. Però Arcigay Donna non è mai diventato un nome dell'associazione. Anche perché non era Ok, proponibile, secondo me. ok. Ho capito. Graziella, Ho anch'io se vuoi capito. fare un'altra domanda. E quindi scusami per capirsi, quindi questo quando tu dici aderiscono a Arcigay Donna è un'adesione informale, cioè Sì. Faccio il gruppo di Messina dice noi siamo di tessera Arcigay Arcigay. Donna. Però la tessera che si pigliava Arcigay. era scritto Arcigay. Ok, perfetto. E l'ultima domanda è quindi lei invece le separatiste con cui tu poi ti sei rapportata anche quando sei andata lì alla prima settimana. Lì c'era quindi, lo saprà sicuramente, ma insomma, perché c'era una differenza anche generazionale tendenzialmente rispetto a queste Tendenzialmente sì, è nuove. più grande di me, Ok. cioè, oppure erano della mia età, però con un percorso. Oppure un po' i non giovani, Oh, sì, perché c'era però, Lucchi, c'era. ho capito. Cioè, la caratteristica principale di questi però erano delle grandi città, erano di Bologna, erano di Roma, di Firenze, Napoli no, di Milano io non ho ricordi di qualcuna di aver visto in quei contesti come gruppo organizzato, eccetera. Si riteneva mezzo separatista l'altra uscita di Torino, ma non era separatista perché poi era un circolo Arci, quindi. I desiderandi nascono dopo, Sì, d'accordo. senti, io volevo chiedere questo, perché ora tu stai parlando molto diciamo, del tuo rapporto con il nazionale, del tuo ruolo. Io volevo capire, ma questa linea politica in qualche modo si delinea in parte così, diciamo, spontaneamente, in parte riflettendoci, strategie, scelte. Per ora ne stai parlando molto come, diciamo, un tuo in qualche modo personale Sì, processo, percorso. riflessione. Mi domandavo, ma poi nel quotidiano a Verona esisteva, cioè il vostro gruppo era anche un collettivo che discuteva queste decisioni o comunque se ti confrontavi con qualcuno, quanto, perché da come ci stai parlando ora di questo percorso sembra poi alla fine molto solitario nel senso del Sì. processo collettivo democratico come quello che poi abbiamo vissuto insieme, hai vissuto con loro, quello che ti ho poi visto vivere io. Invece qui mi Primi anni, domandavo che quanto ci allora, fosse un collettivo nella tua città o comunque quanto tu erano due avessi. cose completamente diverse. Allora, a Verona è rimasto, l'Arcigay Donna, è continuato a incontrarsi per anni, penso, finché poi sono diventate arcilesbica. Nel 94, secondo me, io non ci stavo più dietro, non so. Però negli anni 90 sì, faceva le riunioni, quindi io in genere cercavo di esserci anche in quelle. Però a Verona, alla fine, quello che a loro interessava, cioè nessuna di loro era interessata a quello che era il mio progetto, e dico il mio progetto perché il mio progetto è stato quello di farne un nazionale. Loro erano già contente e soddisfatte di due cose sostanzialmente: che avevano un luogo dove incontrarsi, perché poi si prese una sede che pagava il nazionale, quindi a quel punto potevano andare quando volevano, fare anche delle riunioni, fare quel cazzo che gli pareva, quindi già avere questo. Poi già organizzare una festa aveva bisogno di aiuto e di supporto, in questo la Bonomi era molto trainante, quindi c'era anche un gruppo che era trainante di quel gruppo, di quel contesto, altre che tiravano indietro perché non era molto coeso. Anche politicamente loro, mi spiace dire, non hanno mai fatto nessun cazzo di scelta, cioè supportavano me semplicemente perché io garantivo tutto questo. Mm-hmm. Erano contente se io organizzavo una cosa a Verona perché così conoscevano altre lesbiche, ecco questo sostanzialmente. Mi feci un po' aiutare dalla Bonomi per quanto riguarda l'aspetto relazionale a livello nazionale, difatti loro la Bonobi la conobbero, perché comunque fin da subito io, se dovevo andare nei posti dove c'era socialità, se tanto potevo, cercavo di portarmi, perché io non sono tanto capace nella socialità, mentre la Bonobi sì, attaccava bottone con chiunque, è una in grado di essere simpatica, di fare relazione, creare ambiente. Per quanto riguarda poi invece l'aspetto pratico, quindi proprio di stesura, di lavoro duro, di mantenimento dell'agenda, eccetera, sfruttai molto la Betty, con cui avevo un rapporto molto ambiguo, che non si sapeva se stavamo assieme o non si stava assieme. Io dicevo che non stavamo assieme, lei cercava di stare assieme, io poi non la volevo a casa mia, allora lei si allagava a casa sua, tutta una serie di vicende così. E quindi sì, ora poi chi mi ha conosciuta dopo dice che io sono stata molto stronza, sono tuttora stronza con la Betty. Perché però io della Betty non ci ha parlato tra l'altro ancora, no? No, perché la Betty è saltata fuori poi nel 91, no. Cioè io non la conoscevo ancora. No, ora quindi c'è da aprire la parentesi Betty, ok. Perché c'era la Francesca Vaini, che però anche lei, la Francesca Vaini, io cosa lo usai a fare? Quando si fece il... quell'assemblea che si fece alla Caverde, cioè nell'89, dei gruppi per il progetto Arce Gay Donna, alla Francesca le fece preparare la relazione del gruppo Arce Gay Donna di Verona. No, non potevo fare anche quello. Cioè, purtroppo sì, è stato molto in solitudine, è stato tutto in solitudine, secondo me, il mio percorso dentro l'Arce Gay Donna. Nel complesso, questo non vuol dire che ogni cosa è stata fatta da sola, non vuol neanche dire che io non ascoltassi e facessi a capo mio. Cioè io, quando c'erano delle cose, neanche che io valutavo, che necessariamente io valutavo valide, eccetera, se reputavo che non fossero dannose, io cercavo di lasciare spazio. Però ero io, era una decisione mia, io decidevo quando fare, io legittimavo se fare. Io ho cominciato a lasciare, perché mi sono resa conto che poteva esserci qualcosa al di là di me, che però ci sarebbe stata se io mi facevo più indietro, perché comunque la mia era stata troppo una figura schiacciante, volente o no, lo era stata, troppo onnipresente e anche comoda all'esterno, perché fai facile tu ad avere un'unica interlocutrice, che poi tanto il resto, anche per Grillini era facile avere me come unica interlocutrice, così dopo tanto le lesbiche incattivite me le gestisco io. Mm-hmm. Io questa percezione la ebbi al convegno che organizzarono loro a Firenze, dove io mi feci più in là, lo organizzaste tutto voi, anche se contenuti. Io contenuti credo che li imparai quando venni, cioè si fece una riunione prima, che quando io scambiai Elena per una lesbica, per una etero di potenza, pure l'avevo vista ancora, ma io non sono fisionomista, quindi mi sa che venne anche con la Betty, non mi ricordo bene, Quindi ero venuta per parlare di questo convegno che doveva svolgersi di lì a poco. Io non avevo idea di cosa loro Ma avessero su questo ti fatto. volevo fare una domanda che è precedente. Noi prima di organizzare il convegno a Firenze, e là ci si prese l'impegno, si venne al convegno a Verona, Sì. che era sempre nel 93. La convention, Sarà stata in primavera e poi non si fece a novembre. sì. E quella cosa era chiamata convention, noi ci si rise tutto il tempo, si chiama La convention. convention, sì, non so come mi sia venuto in mente, anche quello viene in mente a me, chissà Noi da perché. Firenze siamo tante, Sì. però quella convention già si chiamava Una Nuova Generazione in Movimento e effettivamente la maggioranza eravamo della mia generazione, al di là sia le fiorentine che le non fiorentine. Allora mi sono chiesta, tu avevi già una percezione che si stava muovendo No, qualcosa? io ho pensato, io metto così, vedrai che arriva. Cioè, nel senso, io ero stufa e doveva emergere questa nuova generazione. Fra l'altro, l'organizzazione, non so se te lo ricordi, era anche Pissera. Avevo invitato la Lidia Menapace, che vabbè, Lidia Menapace è spendibile in ogni cosa, e quindi fece la Carol B. Tarantelli, perché ho pensato, l'americana se ne intende di lesbiche, che là le lesbiche sono più, non lo so perché, la Tarantelli, perché me la presentò la Betty di Prisco, perché la Betty di Prisco invece fu una compagna, la chiamo anche se lei era del PCI, perché lei ora si è tirata poi fuori da tutto, di Verona, che era deputata Ah, la all'epoca, e lei, deputata. eh? La deputata, ora mi Sì, ricordo. e lei si è spesa tantissimo, cioè io tutte le cose che le ho chiesto, lei ha sempre cercato di darmi una mano. Perché c'era comunque all'interno del PD in quella stagione, credo stiamo parlando del 92-93, Quindi era PDS. era PDS nel cambio, subito dopo il PC PDS, fu quando cercarono di pigliarsi la Cavarero. La Cavarero ci fu in quel congresso, sembrava un po', presente come la d'Esordio quando improvvisamente ebbe quei 5 minuti di notorietà e pareva diventare la leader della sinistra italiana. Ecco, la Cavarero successo uguale, aveva aderito lei e una serie tutte di altre sue amiche al PC prima e poi sostenne il cambio in PDS. E Occhetto aveva deciso di investire in queste donne, gli lasciò anche spazio. E quindi la Betty di Prisco faceva parte di questo gruppo e fu quella che mi aiutò a tirarmi fuori e avere mie relazioni personali all'interno della politica, a prescindere da Grillini, perché su questo Grillini ha sempre cercato di gestirmi tutto. Io la cosa che ricordo con più che mi incazzai tanto di Grillini, lui per un qualche motivo che sa solo lui, aveva deciso che lui copriva l'area del PC. E quindi doveva diventare deputato per il PC e io dovevo coprire l'area di radicali. Ora, a parte che radicali non sono mai stata, non ho mai potuto vedere i radicali. Poi certo che io sono donna da bosco e da riviera, ma se ho un progetto, no? Per andare in Parlamento. E cosa fece? Durante il giorno prima di un congresso nazionale dell'ARCI, quindi 80, può essere stato il 92. Dovevano esserci le elezioni, forse nel 92 non Ci esserci furono state. le elezioni nel 92, sì. Ecco, allora quelle elezioni lì, io vado bel bello al congresso nazionale Venne, dell'ARCI. poi ci fu un governo tecnico, credo presieduto, non so, Sì, da Ciampi, c'erano da le Dini, elezioni. mi ricordo. Fatto sta che arriva uno, mentre fa un intervento l'altro, viene lì, mi chiede uno con il microfono, ma sono di Radio Radicale, dico sì, ma possiamo intervistarti? Dico sì, vedo, penso sul congresso, penso io. Ma no, ma allora abbiamo al nostro microfono la nostra candidata, Graziella Bertozzo. Scusa, scusa, ho detto, sì, perché tu sei candidata per i radicali. Ho detto, no, ma quando mai? Cioè, ma in diretta, cioè, ma io non sono candidata per i radicali, ma quando mai? Non sono mai stata di radicali, invece, ce l'ha detto Franco Grillini. E ho detto, e allora che si candidi Franco Grillini con i radicali? Io no, non sono candidata con i radicali né ieri, né oggi, né mai. E così se ne andò. Beh, quello fu proprio come lui gestiva. Cioè, aveva queste cose, Accidenti. poi direi Franco, certo con me poi rimaneva un po' smusato, quindi forse, però ecco, poi, e quindi Grillini con me ha sempre avuto un po' paura. Perché dal suo punto di vista io ero imprevedibile, lui evidentemente non se l'aspettava. lui non si aspettava che io mi sarei dimessa per davvero, ha sempre pensato, quando io dicevo ma io penso di dimettermi, che fossero dei mezzucci di ricatto, che sapevo che aveva bisogno di me, eccetera. E quella volta lì fece questa, la Betty il Prisco, quindi fu in quell'epoca, perché alla fine tutto si riduce in quei 4 anni in cui io conobbi queste dinamiche, la Betty il Prisco e anche la Cavaliero con me ebbero un rapporto molto diverso e avevano con me una relazione preferenziale in quanto donne, con una donna, non andavano a sentire i grillini, cosa che invece altre, tipo la Turco, fecero, mi ricordo un invito della Turco, dove la Turco scrive a Grillini per chiedergli se ha una donna da mandare al tal incontro. E quindi Franco va, ma la Turco vuole sapere se tu vai al tal incontro. Ma manco c'è il mio nome, c'è Franco Grillini, mandi la tua moglie, ecco, cazzo vuoi dire? Questa era la Turco. E di fatti erano due fronde diverse. Vinse la Turco nel e difatti quelle altre sparirono tutte, credo che poi la Betty di Prisco non si sia più candidata, eppure la Betty di Prisco era una che a Verona pigliava non so quante preferenze, cioè, comunque te... tornando a quella convention, sì. A me mi pare che quella nuova generazione, è una domanda, quella sì. Nuova generazione c'era per sì, caso, c'era. Perché era arrivato il momento, era arrivata. Non lo so. E un pochino cominciò a destabilizzare le carte, perché la convention organizzata dalla Graziella era una roba abbastanza ingessata, dove sì, appunto c'erano gli interventi della pace. Già previsti, eccetera. Ma invece c'era anche una platea di gente che aveva delle cose da dire, che voleva discutere. Per esempio ci furono queste di Ferrara, che poi nessuno ha mai più rivisto, che propose di cambiare nome. Di chiamarsi gay donna. Sì. Di chiamarsi arcigay arcilesbica. E nacque da lì. Sì. Noi a Firenze si prese subito e si... portò avanti, ma non lo proponemmo noi, lo proposero queste in assemblea. Le prime furono loro, e infatti dopo ci fu quella di Firenze, e poi al congresso nazionale dell'Arcigay ci fu la proposta del cambio nome, che il congresso nazionale poi fu a maggio. Per cui noi, per esempio, avevamo un'interpretazione, non lo so te come l'ha vissuta quando sei venuta a Firenze, te dici io non sapevo neanche i contenuti, ma per noi era un'assemblea, cioè per noi prima si era, non è che noi avevamo invitato le invitate, c'erano le invitate a parlare. Noi prima avevamo discusso tra di noi l'ordine del giorno, sostanzialmente, che delle tematiche ci sembrava di dover discutere, e presentavamo un nostro documento che avevamo discusso per mesi, ma era il nostro documento, non è che avevamo invitato la Grazia Zuffa a parlare di un'altra cosa, forse l'avevamo anche invitata a un certo punto, ma e quindi te poi si chiude e ci racconti delle amanti, ma... come la vivesti questa cosa di Firenze? Io bene. Cioè, allora, Verona per me... Perché ci fu chi disse che l'avevi vissuta molto male. Chi? La Rosa, venne a riprendermi. No, allora, chi importa, te lo posso anche dire, ma te prima rispondi. Allora, io quel titolo, Una nuova generazione di movimento, è perché obiettivamente mi era accorta, se non altro, che generazionalmente chi stava aderendo all'arcigay donna era tutta gente di 10-15 anni meno di me, e che a questo dovevo lasciare il posto. Mentre prima, fino al 91, 91-92, io mi trovavo in segreteria nazionale con la Nina, la Mirella, cercare di farci entrare magari una Milletti, cioè qualcuna che... però era tutta gente abbastanza come me, anche come testa, come... neanche come testa, cioè che non veniva da un collettivo. Io, a differenza di loro, almeno ho fatto il movimento studentesco, loro manco, quindi è vero, è stato un percorso in solitudine. E pensavo che il mio percorso in solitudine, che aveva quell'obiettivo, doveva anche finire, non è che questa era la mia vita. E pensai anche che, visto che vengono le giovani, avranno altre modalità, avranno altro, ma io, il mio compito sarà quello di lasciare andare avanti una generazione che si sta muovendo ora, mettiamo che è in movimento. E così pensai questo titolo. E questa modernità, questo fa un po' ridere, fu anche, per me era moderna la mia idea, la nuova generazione in movimento, per questo convention, perché pensavo nel futuro cosa si chiama, congresso, cioè erano tutti nomi, seminario, tutti i nomi mi sembravano vecchi, convention mi pareva più nuovo, e quindi la intitolai così. Però ci faceva ridere. Però ecco, era sempre queste mie cose come quelle del capo indiano, capito? Cioè, ecco, alla fine fece ridere sto convention, ma non allontanò, perché si chiamava convention, ha detto grulla. E obiettivamente me ne accorsi Comunque che. eravamo pre Berlusconi, Sì, quindi sì. convention era buffo, Nessuno. ma nessuno Sì, non pensava a era quello che ancora era significato, aziendale. non era ancora aziendale. Sì, non c'era ancora. No. E quindi, e me ne accorsi anche quando, durante quello di Verona, perché quello di Verona ebbe due caratteristiche un po' anticipatorie di quello che sarebbe successo dopo. Una è la prima volta in cui a Verona saltò fuori Zoccatelli e gli Non integralisti. ricordo. Non si sapeva neanche che Cioè, non sapevo esistessero. che era la prima volta, però me lo La prima ricordo. volta nessuno li conosceva questi Zoccatelli, che dopo furono i protagonisti del 95. E questi qua ce l'avevano perché attraverso la Cavarero io avevo avuto una sala che era una sala comunale, ma estremamente prestigiosa a Verona. Non mi ricordo neanche come si chiami, ma era la sala della cultura alta. Poi in Piazza Bra. Piazza Brace, sala figa, ecco. Tutte, con tutti stucchi e controstucchi, tutto quello che serviva, misi su un finto ufficio stampa che consisteva nella Betty che dava gli inviti. Certo, ma come vedetti, le Le cartelline, cartelline, figurati i librini avrò fatto, certo, cartelline, avevo comprato con anche i tutte le. computer Macintosh Arate, quindi avevo abbastanza grafichina e quindi feci tutta questa cosa. E Zoccatelli, evidentemente, famiglia e Sapeva. civiltà, se ne accorse e venne a contestarci. E secondo me già quello doveva far capire che stavamo andando da un'altra parte, cioè che a quello avremmo dovuto far fronte. Contemporaneamente venne tutta questa gioventù. Io ero in gloria a vedere tutta questa gioventù venuta a Verona. La cosa che mi colpì C'era la comunque, sala piena, io mi la ricordo. sala era piena di per lo più gente giovane, tipo queste di Ferrara, mai viste né conosciute. È vero che poi non si sono viste più, però un movimento non è fatto da Tizio, Caio, Sempronio, un movimento è quando è un movimento. Ma dato proprio che era preso il titolo, era una generazione, magari questa non la vedrò più, ma intanto si è mossa, è venuta qua, e quelle lì hanno detto perché non ci si chiama Arcigerci Lesbica? Più movimento di quello, portarono, vennero solo a far questo, ma i movimenti sono così, non è che c'è il protagonista. E io sinceramente una cosa che mi aveva sempre angosciato, soprattutto quei 3 anni, da quando ho iniziato prima a raccontare, questo trovarmi al centro, in un mondo dove io avevo scelto di fare periferia dai bordi, e dire ora per portare i bordi nel centro, non è che ora anch'io perdo l'orientamento, quindi con questo timore, boh, ero proprio contenta. Quando loro proposero di fare la cosa a Firenze, io ebbi un po' di crisi, la mia crisi fu questa. Io queste sono tutte ragazzine, ne so io, che ne so io di cosa salta fuori? Che ne so io di come loro lo fanno? E quindi i casi erano due, o le dicevo sì e poi mi piazzavo lì a fare la madre superiora che voleva sapere la rava della fava e voleva controllare tutto, oppure davo carta bianca. Io pensai, se la gente sta nel movimento, ora lasciamole fare. Quindi io quando poi fui convocata almeno una volta, credo che sono stata convocata, non che mi convocai io. Non me lo ricordo. Vabbè, andai, mi portarono lì, mi spiegarono, eccetera, non capì in caso, capì che non c'era, ora a parte credere che lei fosse la etero di potenza, dalla sua targa, che invece era Pistoia, dal fatto che c'era i capelli lunghi, avevamo appuntamento a Peretola e mi arriva questa, io non me la ricordavo di viso, era lei l'Enrica. L'Enrica mi pareva lesbica, pensate, questa ci parla da potenza, guidava lei, forse è una sua cugina di potenza che è venuta a trovarla. Pensavo, forse. Poi durante il corso della giornata capì che era Pistoia, quindi Già non era lettera di gliel'ho potenza. raccontato anni dopo che l'avevo scambiata per l'etero di potenza, e capì che lì mi era sfuggito il controllo. E pensai, è così ad essere. E quindi quando arrivai, ora, a parte che ero proprio stanca io, era un periodo in cui stavo male quello, cioè perché ogni tanto avevo queste cose che mi affaticavo troppo e quando andavo oltre stavo male, quindi probabilmente ero pure sotto psicofarmaci. Arrivai con la Betty, penso, e con questa Rosa, che poveretta è morta l'altro ieri, che era il periodo in cui mi tampinava. e venne con una telecamera che poi credo che abbia la cassetta la Biagini o l'avremmo persa. Ah, il circolo. Ah, ecco, dove lei mi seguì per tutto, cioè il suo seguire il convegno fu seguire me e non è che parlavo. Il video è lei e basta. Sì. Se parlava lei riprendeva lei, se parlava un'altra riprendeva lei, se lei si alzava andava in bagno la telecamera. Cioè, a un certo punto mi segue e vado in bagno. E quindi mi trovai un po' in questa situazione, un po' con la Betty, che poi con la Betty era abbastanza conflittuale il rapporto, quindi sì, lei mi dava una mano, ma non è che... Poi la Betty anche mi controllava, perché con la Bonomi ero più pestaiola, se c'era la Betty dovevo contenermi, perché poi se no mi sgridava, faceva anche bene, perché se no poi mi massacravo e stavo male, quindi... E quindi io andai lì, mi trovai una cosa organizzata come io non l'avevo mai organizzata, mi ricordo il documento sulle unioni civili, dove loro avevano fatto tutta una serie di riflessioni, che io condividevo anche, certo, evidentemente il mio non c'era arrivata, e quindi io fino a quel punto non avevo mai più di tanto... Noi si presentò un documento contro. Sì, non avevo mai preso posizione, era una roba di grillini, e io manco mai mi ero messa a fare tante riflessioni, perché... Non, le unioni civili non rientravano nella mia strategia, quindi io me ne disinteressavo. E loro fecero questo discorso, io però non potevo dire ah brave, brave, so, però rimane il fatto che io dopo, visto che lì era emersa questa, portai avanti sempre la posizione che ritenni fosse quella dell'arcigridonna. Non ci rimasi male, fui contenta, non stavo bene, questo è vero, però io lo ritenni un grande successo invece, non visibile all'esterno, cioè nel senso non è che qualcuno mi avrebbe detto ah guarda che brava, che perché era quasi, sì, la nuova generazione c'era e stava a me non coprirla, stava a me non sentirmi scavalcata, stava a me dire vediamo quando, perché il problema poi, questo l'avevo visto anche a Verona, con la Betty, il problema era la visibilità, perché avevo messo a Verona in piedi tutto questo ambaralà, a quel punto vennero tutti i giornalisti, ma non ce n'era una che si voleva fare intervistare. Però io stavo dentro, quindi l'unica barriera di protezione che io riuscii a mettere fu Betty, quando vengono i giornalisti, tu non li fai entrare, ma noi non possiamo dire che ora è un convegno a porte chiuse, per non disturbare, eccetera. Quando loro diranno, ah ma non c'è nessuno da intervistare, eccetera, tu gli dici, intervistate me. Quindi la Betty finì in tutti i giornali a fare la lesbica lì. E loro tanto volevano una, che non fossi io ovviamente, e quindi la Betty finì lì, e la mamma ha detto così, la mamma ha detto colà, contenta sarà stata la sua mamma. E però capì che l'ultimo ostacolo, a Firenze vidi che c'erano i contenuti, loro avevano anche, io questo anche capì, erano in grado per percorso loro, per tipo di lavoro, perché loro erano un gruppo, cosa che io non avevo mai potuto contare su un gruppo, anche di ripigliarsi quel contesto che non era più strategia a quel punto, perché non è che tu vai avanti per sempre con la strategia, ma che erano quelle cose che io non ero riuscita prima, cioè io non potevo anche preoccuparmi della teoria, preoccuparmi di una politica interna, era complesso. Cioè loro avevano una complessità che io non ho mai potuto assumere, perché io quello che ho potuto fare, è vero, era stato un percorso in solitudine, ma in fin dei conti la mia era stata una strategia per permettere a quella generazione invece di venire fuori. L'unico ostacolo, e quello capì che non era quindi ancora il momento, era la visibilità, perché senza la visibilità almeno di qualche persona, cioè, se ancora potevano intervistare solo me, non potevo dire domani mi dimetto, e dove andava? No, certo. Però quindi... nella mia percezione passano secoli da una parte all'altra, ma se ci pensi, tra novembre 93 che ci fu questo convegno a Firenze e il primo Pride, il 2 luglio del 94, di fatto passano 9 mesi. Esatto. E il 9 mesi dopo noi eravamo tutte in piazza. E difatti io a settembre mi sono dimessa, cioè, a settembre me l'ho lasciato. Perché difatti quello volevo dire, io a Firenze c'era ancora quel nodo e io quello l'ho detto tante volte, che io ho deciso di dimettermi al Pride del 94, ma non perché ci sono rimasta male, per raggiunto obiettivo, cioè io avevo, e non me lo sarei mai aspettato, guarda, perché anch'io, come tutti gli altri, pensavo che a Roma saremmo stati in 500 se andava bene, che le lesbiche sarebbero state pochissime, perché quella era la visibilità e quindi forse qualcuna, ma chissà come intamarrata, e quindi quello mi aspettavo. E io non ne ho avuto neanche consapevolezza fino alla fine, perché poi c'era, io la mia preoccupazione, quella fu una, per quel Pride la mia preoccupazione era che noi avevamo cambiato denominazione in Arcigerci Lesbica a maggio, 2 mesi prima, e io non avevo la forza anche di rifare lo striscione, che tanto i padroni erano a Bologna, e quindi rompi i coglioni a spare per questo striscione, perché io non volevo andare a quel Pride con uno striscione con scritto Arcigay e non Arcigerci Lesbica. E quindi io ero concentrata in quella. Poi ovviamente quelli del Cassero avevano il loro striscione, quindi non c'era nessuno del nazionale che era militante da andare a portare striscioni. Quindi avevo anche il problema di organizzare dove mettere sto striscione bello alto, perché alla fine viene bello, ma anche la gente che lo leggesse. Alla fine ci misi Veronesi, Gianni è il capo dello striscione Arcigerci Lesbica nazionale. E questo, quella era la mia preoccupazione concreta di quel giorno, che era la strategia di visibilità, che l'associazione aveva cambiato nome e quindi forse le lesbiche prima o poi sarebbero arrivati in numero ancora più massiccio e io sarei dovuta andarmene. Quando arrivammo in fondo, salì su quel palco e mi ricordo ancora che erano tanti gay, tante lesbiche, in pari numero, c'erano tantissime lesbiche. Mi ricordo ancora lo striscione, quello delle separatiste, cos'era? C'erano anche le separatiste. E c'erano le separatiste con lo striscione, cos'era, le lesbiche? Non tornano indietro. Non tornano perché indietro. Perché era appena, c'era appena il governo per Berlusconi. Quello, anche quello fece la differenza, perché le cose si devono sempre sistemare tante questioni. Certo. E lì, e io quando vidi quella cosa ero felice. Mi ricordo che lì mi ero fatta questa maglietta, che me l'ero fatta fare da Gianni, perché avevo sempre il solito messaggio, mi ero fatta scrivere felice di essere lesbica, che era l'unica che c'era, perché era la mia personale maglietta di quel Pride, che per me era il primo Pride davvero che avevamo organizzato, e poi niente, cioè io da lì, cioè pensai che ho raggiunto obiettivo. Mi si aggiunse il fatto, cioè a me dispiaceva andarmene, perché era 5 anni che era la mia vita, quindi io sapevo che andarmene cosa lasciavo. Quindi la mia preoccupazione era, se io me ne vado, chi farà la segretaria nazionale? Quindi cominciai immediatamente, appena capito che era così, che io me ne sarei andata, a prendere contatti. Le prime a cui potevo chiedere erano le fiorentine, la prima fu lei, e gli chiesi se lei si sentiva di fare la segretaria nazionale. E mi ricordo che Elena disse, ma io dipendo ancora dai genitori, non mi sono ancora laureata, io in questo momento non me la posso sentire. E io non feci niente, non potevo che darle ragione. Quindi fra me e me pensavo, ma allora devo forse ancora aspettare questa generazione, deve almeno laurearsi questa nuova generazione in movimento. Casualmente salto fuori la Giulia Crippa, che lei fu un po' una meteora. Aveva un anno più di me. Aveva un anno più di te, lei viveva a Bologna, era, mi pare, di Reggio Emilia, e secondo me era anche visibile in casa, non aveva grossi problemi. Sì, no, era una persona intelligente comunque la Giulia, non è scema. E quindi diceva, io me la sentirei. Ora, la Giulia Crippa a me non pareva affatto una cretina, ho pensato, ma a me stava bene. Parlai con loro, perché poi la scelta, ecco, io lì a quel punto, anche in questa decisione, forse quella decisione fu l'unica che non presa da sola, perché sentivo io. Sì. Cioè, non è che io dissi ora allora chiedo a questa, st'altra, eccetera. No, io siccome avevo puntato sul gruppo di Firenze, sul gruppo, non su lei, sul gruppo, dissi ma voi che dite? E quindi gli andò bene, la Giulia Crippa, e quindi io mi dimisi. E poi questo non significa che poi io non abbia sofferto, perché quella notte mi ubriacai, cioè, perché comunque... Comunque stavi male in quel periodo. Stavo anche male, cioè stavo male già l'anno prima, figurati come stavo. Cioè, io lì mi sono salvata la vita di mettermi, io non ero in grado di andare avanti ancora molto, perché comunque quando tu dici era un percorso in solitudine, io è un percorso che è stato in solitudine, onestamente è stato un percorso in solitudine dall'88 al 94 e una persona come me, sostanzialmente psicologicamente fragile, perché io tale mi ritengo, anche se poi a volte dico, sono così fragile, manco sono che poi sopravvivo. Però sì, con tanti amici, perché devo anche riconoscere questo, a me la vita me l'ha salvata gli amici, però ecco, anche se sentivo l'affetto, eccetera, però poi sono sempre decisioni, cioè, che pigliavo io. Quindi. E poi non so se questo su di te pesava, però forse bisogna fare la pausa. Cioè, noi per esempio, il gruppo di Firenze avevamo un'ammirazione sconfinata per la Graziella. Ce l'aveva tutto il circolo e le lesbiche in più ci avevano quella forma di riconoscimento Per d'aver avuto lei come visibile, eccetera. Questa cosa era molto diffusa. È un carico emotivo. No, ma infatti io però per questa parte un po' vorrei sondarla, Ok, capì? quindi facciamo Senti, pausa. Personale, Chiudiamo. personale, No, cioè. sono perché ora io non sono andata Cioè, da una avanti. parte c'era tanta Temporale. ammirazione, No, dall'altra era un idolo, quindi veniva. certo, no, ma Cioè. io questa parte la voglio domandare, cioè, No, insomma, anche adesso sul piano perché io politico. ora ho spiegato come io mi sono Sì, no, mossa però dobbiamo. e che cosa ho fatto, ma poi come io sono stata è tutta un'altra Esatto, roba. però è quello, E cioè, quindi ora è già spengiamo. un'ora fa che ho detto.